auto da city, per non vivere cercando parcheggio, o SUV, per picnic bucolici vista mucche. No, questo è il mio panino. City o SUV? City SUV! Scopri il nuovo Skoda Kamiq. Fino a 7.000 euro di vantaggi, anticipo zero solo con ecoincentivi. Tasso extra small 2,49. Tuo da 135 euro al mese. Tag 3,58. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.247 euro. Info su skoda-auto.it. Benvenuti carissimi amici alla seconda parte della Top 10 videogame della scorsa stagione, dello scorso anno, del 2023. Siamo arrivati quindi al quinto posto e ripartiamo ovviamente da qui con Deborah. Vi ricordo che questa è una live estratta, anzi questo è un podcast estratto dalla live fatta dove sono stato ospite ovviamente con Pixel Deb sul suo canale Pixel Deb. Lo cercate su YouTube, vi iscrivete, attivate la campanella, guardate i video, condivideteli, mettete like e soprattutto commentate. Buon ascolto per questa seconda parte. Runtime Radio presenta Ludico Forum. Va bene, andiamo al quinto posto di Simona. Allora, io quindi torniamo su Planet of Lana, fondamentalmente, perché mi sono appena accorto che questo gioco di cui vi sto per parlare è il gioco precedente degli stessi sviluppatori di Planet of Lana. Vedi, sì. Le cose che scopro stasera. L'ho scoperto pure io adesso, in questo momento. Perché io sono andato a vedere, dice, fammi vedere questi che hanno fatto prima. No, invece no, prima non hanno fatto niente, ma hanno fatto dopo, hanno fatto Planet of Lana. Diciamo che le tematiche sono sempre le stesse, però io considero Somerville, il gioco di cui stiamo parlando, il vero erede di Another World. Cioè, secondo me è spiritualmente e anche narrativamente, volendo un po', l'erede di Another World. Prende molto spunto dalla Guerra dei Mondi, naturalmente, e non solo, secondo me c'ha tutta... quel tipo di filosofia, di narrativa, di immaginario così oscuro, così violento anche da un certo punto di vista, perché non c'è solo l'invasione ma c'è anche lo sterminio, no? Cioè, arrivano sti alieni e sterminano tutti, cioè, indiscriminatamente, e ti danno la caccia, ancora peggio, cioè, dici, sai, vabbè, li hanno ammassati quasi tutti sti cazzi, no? Devono morire tutti. E quindi tu che sei a casa a guardare la televisione con tua moglie e tuo figlio piccolo e il cagnolino, e insomma, ti svegli, fai i bisogni al cane, e a un certo punto comincia l'apocalisse, e da questa apocalisse ovviamente tu devi ritrovare tua moglie e tuo figlio, perché una scheggia, un missile, un razzo di questi alieni ti praticamente distrugge casa, compreso lo scantinato, e quindi quando tu ti risvegli sei da solo, fondamentalmente, quindi non sai cosa è successo, che gli è successo, non è successo, e inizia questa tua avventura, questo tuo cammino. Cioè, se tu pensi, alla fine Planet of Lana è la stessa cosa, cioè tu devi cercare, diciamo, un po' più colorato Planet of Lana, esatto. Un po' più deprimente. Questo non solo è più deprimente, c'è sempre quello stile low poly, cioè nel senso low detail più che altro, cioè nel senso comunque a basso dettaglio dei personaggi. Sono belle le animazioni, però qui il fotorealismo è molto importante, cioè nel senso comunque tutto l'aspetto dell'illuminazione non gli dà solo quell'impronta molto cinematografica, ma è anche importante proprio al fine del gioco, perché è molto più simile a Inside questo gioco. Infatti sono gli stessi enigmi, diciamo, della luce, quindi te devi coprire quando ci sono le cose che ti illuminano. È più dinamico, secondo me, dei Planet of Lana, e dura forse anche un po' di meno, però secondo me il gioco è molto più dinamico, c'è anche più profondità, perché non ti sposti prevalentemente a destra e a sinistra, però ti sposti anche a seconda delle scene o delle sequenze, anche verso l'obiettivo, verso la telecamera, quindi ti muovi sia a destra e a sinistra che sopra e sotto, insomma, fondamentalmente. Bello, questo è quello che avrebbe dovuto fare Planet of Lana e non è riuscito, cioè nel senso non romperti i coglioni, cioè fondamentalmente. Però tu sei un po' controcorrente, vedo, perché io di questo gioco prima di tutto ho sentito parlare male, E anche qui vedo una media, cioè le voti sono nella media, mentre Planet of Lana va voti alti. Sì, ma Planet of Lana è un po' controcorrente. Sì, però Planet of Lana è stato molto spinto su sta cosa della la storiella o Studio Ghibli, ah che bello, la cosa romantica, quella che l'ha aiutato. Quella perde, quella allora, quanto, tant'è che io ho visto anche giocare su YouTube a sto gioco dicendo ecco, lo so che piangerò. Cioè se tu parti da quel presupposto vuol dire che ti hanno già convinto che è così. In realtà non è che non sia commovente, però se tu lo giochi così come un'esperienza che tu vuoi fare, poi io non è che mi faccio influenzare difficilmente, mi faccio influenzare dalle recensioni, addirittura neanche dagli spoiler, cioè nel senso, a me se uno mi spoiler una cosa, ok, a volte mi ci può un po' rode, però poi fondamentalmente non mi rovina l'esperienza, perché a me comunque l'esperienza è vedere cosa mi racconta e come me la racconta quella cosa, anche se poi so come magari andrà a finire. Quindi secondo me questo, secondo me funziona meglio. Poi, Planet of Lana sicuramente è più emozionante, più romantico, forse, non lo so. Questo è proprio dark, questo è mondo distrutto senza speranza, è The Road, cioè fondamentalmente. Cioè non è che c'è tutta sta possibilità che dice ah che bello, un giorno torneremo tutti a correre per i campi felici, insomma. Non cioè, ti dà la speranza. Non te la dà sta speranza, no? Però beh, mi dici The Road, la speranza proprio non c'è. Esatto, per me è un filmone bellissimo, infinito. Io quando l'ho visto, quando ho finito di vedere quel film, sono rimasto vuoto per giorni. Ah, calcola, io l'ho visto con mia mamma, entrambe siamo rimaste tipo scioccate, e è un film che ti lascia proprio pensare veramente, come dici te, per giornate intere. Viggo Mortensen lì, Oscar, cioè, lo meritava assolutamente. Bravissimo. No, che poi se tu ci pensi, alla fine è forse uno dei pochi film, diciamo, che racconta un mondo post-apocalittico nel modo più realistico possibile, perché ce n'è che tu dici c'è stata l'apocalisse, però vedrai che un giorno poi va tutto bene, no. e ricostruiremo la civiltà. Che cazzo ricostruisci la civiltà? Cioè, è una delle poche volte in cui ho visto il film, mi è piaciuto così tanto, ho letto il libro, e il film invece secondo me è molto più bello del libro, stranamente. È una delle poche volte in cui dico il film superiore al libro. Il libro mi ha emozionato molto di meno, mi ha coinvolto molto di meno. Invece il film, cioè alla fine stavo tipo ma toh, cioè, tipo aiuto. Comunque secondo me è più vario delle Planet of Lana, soprattutto dal punto di vista del gameplay. Secondo me questo sta proprio su un altro pianeta. Non capisco perché abbiano fatto dei passi indietro. Ci sono degli inseguimenti, cioè tu ti devi salvare dall'alieno che ti insegue per ammazzare, cioè è veramente pressante, ecco, da un certo punto di vista. Se vi è piaciuto Limbo, questo è Limbo all'ennesima potenza, secondo me. Questo è migliore di Limbo. Che poi anche questo no, di Limbo, The Inside, scusa. Quindi anche questo qui avevano messo su Game Pass, sì, quindi sì. Se avete Game Pass lo potete recuperare. Giocatelo, ragazzi. Allora, Nico dice non sono gli stessi sviluppatori, però qui dice acquista Planet of Lana più Somerville, lo mette proprio come pacchetto. Sì, qui lo mettiamo. Vediamo Jump Ship un secondo. Allora, tolgo italiano. E obiettivamente qua non mi mette Planet of Lana da solo. Cioè me lo mette come pacchetto, però okay. Non me lo mette singolo negli sviluppatori. Quindi forse non sono gli stessi sviluppatori. Ho detto una non cazzata, so. Vabbè. C'è sta. Allora, con questo l'avevo ignorato, invece sembra interessante. Dice il buon Inspi lo trovi su Game Pass. Se vuoi, se no al momento sta al 50% a 10 pippi. Cuciniere dice grande Simo, non lo conoscevo, Somerville. Francesco dice ha letto il libro, sì, anch'io di The Road ho letto The il Planet libro. Of Lana per una, no, però per una volta vince il film, a mio avviso. Il film è The Road, sì, quello con Viggo Mortensen, che lì era da veramente da premio Oscar. Bello. Ah, ripeto, io questo gioco lo volevo giocare, poi avevano messo su Game Pass, però poi mentre stavo giocando altro, il problema è che ne ho sentito parlare unicamente male. Anche un mio amico, insomma, l'ha giocato perché gli ispirava un sacco, pure lui me ne ha parlato male. E allora già non è proprio quel tipo di gioco che piace a me, questi così, no? Così, puzzle, scorrimento laterale, eccetera. Anche se sembra meno di Planet of Lana a vedere Sì. Un puzzle quello. Sì, ti assicuro, ci sono gli enigmi ambientali, le cose, ma è tutto molto più contestualizzato, capito? Sì, ma anche mi sembra un po' di meno, insomma, a vedere qua, confronto a Planet of Lana, che era sempre quello. Ed è anche più dinamico, cioè, nel senso, comunque tu qui sei corre di più, insomma, qui devi scappare, sì, capito? Cioè. Questo sì, comunque, stando ancora su Game Pass, magari poi lo proverò, perché comunque lo volevo provare, poi alla fine ho giocato ad altro e non l'ho ancora recuperato. Comunque anche in italiano questo qua, se ci sono dialoghi. Sì, no, in italiano serve per il menu e basta. Cioè. Il menu nuova partita, insomma. Esatto. Impostazioni. Tipico. Va bene, andiamo al mio quinto titolo, che praticamente... per chi ha seguito, insomma, il Pixel Gothic Award già sa qual è il mio quinto titolo, che ero in dubbio, insomma, con Stasis, però alla fine ha vinto. L'avevo messo nella mia cinquina, ossia Marcus Ritter, che ridendo e scherzando è stato veramente un bel gioco. Allora, prima di tutto ringrazio ancora Calavera, perché ho vinto la key e quindi bella, ho risparmiato 20 euro, mi hanno regalato la key loro, insomma, quando ho partecipato al quiz ho vinto la key, sono rimasta molto contenta perché io avevo giocato il primo, che dura un'ora e mezza ed è gratuito, lo trovate qua sempre su Steam. E a novembre, a fine novembre, è uscito il seguito, Marcus Ritter Ghosts of the Past. Allora, io sono già grande fan dei full motion video, perché mi fanno un sacco ridere. A Gabri non li può vedere manco da lontano, cioè Gabri li odia full motion video. Infatti ogni volta che io gioco full motion video mi guarda pure male, perché proprio lui li detesta. E invece a me fanno ridere, perché sono recitati sempre male, perché sono sempre esageratamente scenici, perché tendenzialmente sono girati con una telecamera rubata a qualcuno con quattro soldi, cioè a me fanno ridere full motion video ed è pazze. E questo qui prende in giro, cioè, questa è una presa in giro proprio dei full motion video, soprattutto di quelli anni 90, quindi un po', che ne so, prende in giro un po' Gabriel Knight, un po' Fantasmagoria, sai, questi qui della Sierra, diciamo. E quindi obiettivamente è molto divertente, cioè se tu giochi sapendo che comunque è una goliardata, diciamo, ti diverti un sacco. Cioè io mi sono divertita veramente tanto e secondo me si merita di stare nella mia top 10 di giochi giocati quest'anno, perché sono state 6 ore e mezza degne. Cioè, nel senso, il primo qui era gratuito, si vede che è una cosa proprio fatta veramente con la macchina fotografica tua, con la fotocamera tua, ci hai messo 2 euro totali e l'hai fatto così. Invece qui si vede che c'è comunque un salto di qualità, c'è stato più impegno, ci sono anche più comparse, come potete vedere anche dal video ci sono più persone, probabilmente loro amici, però comunque qualche euro gliel'avranno dato per partecipare forse. E c'è da dire che queste 6 ore e mezza comunque ci sono un sacco di cose da fare, ci sono un sacco di location, la storia c'è, ci sono tanti giochi che non hanno storia, no? Che tu dici, boh, ma la storia non c'è sta in sto gioco. Questo invece c'era una storia, per quanto riprenda tutto da Gabriel Knight. In verità poi la cosa divertente è che io adoro Pennac e ultimamente sto recuperando un po' tutto il ciclo Malossène. Io adoro Malossène, da piccola avevo letto Il Paradiso degli Orchi, ultimamente sto recuperando anche gli altri e da poco avevo letto La Prosivendola e c'è da dire che secondo me hanno preso un po' di spunto anche lì, perché il nostro Marcus in questo titolo qui e fa una cosa uguale a quella che fa Malossène nella Prosivendola, quindi questa cosa pure un po' mi ha fatto sorridere perché l'avevo letto da poco in verità. E è ambientato a Vienna, questi ragazzi sono austriaci, il gioco si può giocare appunto sia in tedesco che in inglese e loro parlano anche, quindi o in tedesco o in inglese, quindi l'ho giocato in inglese con loro che recitano in inglese. E c'è da dire che è carino, cioè mi sono divertita, la storia è interessante, mi ha preso, mi ci sono abbastanza chiusa, volevo vedere dove andava a parare, poi vabbè ovviamente ultra recitato, come potete vedere anche qui dal video, insomma fanno queste espressioni facciali di un certo livello di sofferenza eccetera. E però ripeto, c'è un sacco da fare, un sacco da visitare, varie zone, non è così scontato, la storia c'è, gradevole. Cioè, se volete fare una risata, se vi volete giocare un'avventura senza troppe pretese, che non si prende sul serio, ma che alla fine diverte, secondo me questo è il titolo adatto. 6 ore e mezza veramente divertenti, quindi gran gioco, cioè mi sono divertita proprio tanto, quindi secondo me si merita più pubblicità questo gioco qui, onestamente. In inglese è molto facile, si comprende proprio senza problemi, tanto ci sono anche i sottotitoli, quindi assolutamente consigliato. Se volete giocarlo, però, giocate anche il titolo precedente, che è gratuito, come vi dicevo, lo trovate qua proprio su Steam. Tu, Simone, Marcus Ritter lo conosci? No, c'ho il... Ah, il primo perché è gratis, giusto? Ecco perché sì, ce l'ho segnato come in possesso. No, vabbè, ma quanto è che è girato malissimo, cioè. Cioè, proprio tecnicamente sto gioco è orribile, penso sia fatto apposta comunque. Sì, sì, sì. Però il primo è peggio. Anche il secondo peggio, si vede già che c'è un po' più di qualità. C'è proprio una scena dove loro passano l'inquadratura, cioè fanno un movimento e si vede proprio quando, si vede quando apri l'otturatore perché l'inquadratura è troppo buia, cioè è proprio terribile come cosa, però penso sia fatto apposta, insomma. Sì, no, sì, non, sì, comunque sì. Non l'ho sentito da te e quindi me lo sono messo nelle wish, poi quando mi capiterà, insomma. Sì, io l'ho conosciuto tramite Calavera ed è stata veramente una bella scoperta, onestamente. Mi sono appassionata, insomma, a Marcus Ritter, spero faranno anche un altro seguito, onestamente. Allora, Inspi dice: io ho una vecchia telecamera, se voi ne possiamo fare uno anche noi, magari. Ma noi l'abbiamo fatto, io noi. Io voglio partecipare a un full motion video, assolutamente. Tanto non so recitare. In un full motion video bisogna non saper recitare. Esatto. Quindi è perfetto. E noi l'abbiamo fatto, un trailer di una cosa che avrebbe potuto essere un full motion video. Vabbè, poi dopo ve lo condivido su Off Topic. Sì, sì, cioè io ti giuro, per forza, no? Se volete fare un full motion video io partecipo, anche okay, gratis, okay, cioè, assolutamente. Soprattutto gratis. Soprattutto gratis, a massimo un supplì. Vabbè, quello sì, quello non se ne ca nessuno. Simone ha scritto: sai quante visualizzazioni su YouTube? Ma del nostro full motion video? Non lo so, dipende quanto lo pubblicizziamo. Carlo va, ciao Carlo, grazie di essere stato qui, alla prossima, buonanotte. E Simone dice: dopo tutto alla gente piace il trash, però questo è trash con stile, attenzione, non è proprio trash con stile questo. Cuciniere dice: quindi Beautiful Desolation fa merda, mi sa che il cuciniere sta un po' indietro, anzi Simone Nicolai se gli scrivi si refrescia, perché mi sa che sta un po' indietro. Ah, quindi il nono gioco di Deb. Esatto, capito? Dici: ah, ma stiamo ancora al decimo, capito? Anche perché ci credo poco che quelli che fanno queste cose vengono pagati. No, ma questi sono tutti amici loro. Ma infatti la maggior parte delle location è dentro casa di gente, perché probabilmente sarà una casa di amici loro. Cioè, capisci, non è che è ambientato in zone, tranne quando vanno a Schönbrunn, che è il castello di Sissi, praticamente c'è una scena lì. Però nel resto la maggior parte stanno dentro case private, quindi sono le case degli amichetti loro. Quindi è come se io Inspi, obiettivamente, se mettiamo a fa dove abitiamo noi, in giro va a città, poi a casa mia, a casa sua, e famo, capito, il nostro Marcus Ritter. Vabbè, ma d'altronde pure noi i primi lavori che abbiamo fatto, cioè nel senso li facevamo sempre a livello indipendente, entro le case che trovavamo, le location improvvisate, era così, poi piano piano magari cresci. Comunque, se volete un full motion video veramente, veramente trash e tamarro... Io vi suggerisco Press X to Not Die. È una cosa terribile. È tutto basato sui quick time event, ma ragazzi è fatto di un brutto che... E dopo, se ti ricordi, sempre condividilo sul gruppo. Ok, perché sì, perché queste sono belle perle. Sì, sì, assolutamente. Perché questa è volutamente, ma proprio pacchiano. Tra l'altro fu il gioco che ci fece in mente, diceva quasi se lo facciamo pure noi, poi non l'abbiamo più fatto perché si sarebbe trovato il tempo per fare queste cose. Ma però vedi che ti invogliano a comunque partecipare a un full motion video. Beh sì, anche perché se tu consideri questo adesso sta a 2,99 euro, no? Cioè è un gioco che non neanche li vale, secondo me, 2,99 euro. Però tu, se sai, se gira la voce, comunque tu 2,99 euro magari ce li spendi giochi e dici, oh, raga, ma questo qua è veramente fatto col culo, scusate il termine, no? Però te fai due risate. Però ti fai due risate, esatto, e poi dici, guardate che è talmente semplice sta roba che la posso fare, veramente la possiamo fare pure noi. Poi dici, ah, dai, mettiamo, se organizziamo, famo, è quella. Poi non lo fai perché giustamente c'è la vita reale tra te e il videogioco che vorresti realizzare. Però se uno ci avesse due settimane in estate, in una settimana lo fai. Cioè, capito che voglio dire? Dice, volendo, basterebbe avere un po' di tempo libero, organizzarsi e sì, lo fa così. Però te posso dire che questo sommeri vale 20 euro. Cioè, nel senso, mo per quanto io l'abbia avuto gratuito, e ancora ringrazio Calavera, però 20 euro li vale, perché cioè, si vede l'impegno. Quindi secondo me 20 euro sono giusti, insomma. Mm. Anche perché, ripeto, comunque 6 ore e mezza, non è che dura, sai, 2 ore e ci fa un culo. Quindi no, li vale. Comunque Cuciniere non stava indietro, perché stava mettendo in lista dei giochi. Ok. Va bene, andiamo avanti con il quarto titolo di Simone. Sì, guarda, questo è velocissimissimo proprio, perché Telltale torna, ma secondo me, come ho detto, sono tutti loro, cioè sono quelle tre software house che fanno sti giochi, sono tutti amici, stanno tutti nella stessa stanza, secondo me. Solo che dice, no, quello è Telltale, no, quello è Dotnot, quello è quell'altro, come si chiamano, vabbè. E torniamo nello spazio con insomma l'avventura d'esordio con dei nuovi Telltale che è The Expanse. E impersoniamo Camina Drummer, che chi conosce la serie o i libri sa di chi stiamo parlando, forse il personaggio non protagonista ma allo stesso tempo il personaggio più bello di tutta la serie, perché lei è Camina e basta, cioè è difficile, perché lei è lei esatto, è difficile spiegare, cioè, il senso di comando, questa guerrigliera per i diritti di una parte ovviamente delle popolazioni che stanno su The Expanse. Lei è un po' rivoluzionaria, un po' guerrigliera, un po' pirata, è un po' alla fine comunque fa delle cose che a volte non vorrebbe fare, però poi dopo alla fine il suo onore la costringe a tornare indietro, fa delle scelte morali a volte importanti, e quindi era il personaggio adatto per una serie Telltale dove le scelte anche morali sono fondamentali, oltre a poi l'esplorazione, la parte insomma dove sono magari i quick time event o cose del genere, anche se non è, ce ne sono tantissimi, diciamo così. Il gioco tecnicamente è molto più bello rispetto a tutti i vecchi giochi del Tale, quindi ovviamente si ritorna sempre al suo discorso che oramai si usa massicciamente Unreal Engine invece che quel vecchio motore di merda che utilizzavano loro che insomma fino a che si trattava della prima stagione di The Walking Dead pure poi anche no. Bello ragazzi, è il prequel esatto, cioè nel senso non volutamente, ma è il prequel esatto dell'inizio della serie, perché quello che succede alla fine ovviamente degli episodi che mi pare siano 5 se non mi sbaglio, quello che succede sì, alla fine tendenzialmente del Tale fa 5 più sì, e si ricollega a quello che poi inizierà a succedere nella serie. Bello, mi è piaciuto tantissimo, devo dire. Vabbè, ma io sono fan della serie, quindi vabbè, ma tu sei un fan dello spazio in generale, si vede anche dalla top 10. Sì, sono un fan dello spazio, però alla fine non è proprio, cioè non è questo l'elemento in sé, cioè qui allora l'avrei vista e l'avrei apprezzata tantissimo come serie a prescindere, ma secondo me The Expanse è il trono di spade nello spazio, cioè è di un'imprevedibilità, di una violenza a volte incredibile e tu non sai mai come vanno a finire le cose. Questa la cosa più bella in un periodo come questo, dove oramai le storie sono spesso e volentieri un po' riciclate, insomma, c'è sta, insomma. Quindi innovativo. Bello. Comunque il gioco è sempre il solito gioco del Tale, cioè non si sono inventati niente fondamentalmente, è molto importanti le scelte morali e molto bella la parte tecnica, insomma, dal punto di vista audiovisivo è veramente un bel lavoro. Se lo giocate al massimo della qualità, ossia cinematic, diciamo ci dovete avere un po' una scheda decente, più che decente, perché sennò conviene giocarlo a medio, insomma, addirittura per questa, pensate, Telltale, incredibile, chi l'avrebbe mai detto, insomma, che una volta lo facevi girare pure col Vic 20, insomma. Col Vic 20. Comunque bello, The Expanse a me è piaciuto, ragazzi. Comunque Ispi dice: press X to not die, valutazioni molto positive su Steam, vedi che è stato apprezzato. Sì, ma è perché una zozzeria, cioè, è quella zozzeria che diventa bella. È perché il progetto quello era, cioè, nel senso, se la gente l'ha capito lo apprezza, se no. Nico dice: tutti ex Telltale e Quantic Dream, questo, in questo qua, in The Expanse. Cuciniere dice: quelli che mi hanno rubato la storia del romanzo, non so se ce l'ha con i Deck Nine, questi qua, non lo so. Assolfo dice: confermo, Kamina è Kamina. Nico dice: Kamina è il discorso più epico della serie. Simone dice: una donna con i controcaspi. Nico dice: bravissima pure la doppiatrice italiana, la serie TV me la sono tritata, sì, 6 stagioni in pochi giorni. Bello, allora alla fine un po' si vede che la stavano a chiudere la serie, cioè nel senso che interrompono delle linee narrative perché secondo me poi non l'avrebbero più rinnovata, evidentemente non c'erano i soldi, comunque una serie come quella costa, e quindi un po', diciamo, il finale lo ciancicano un pochetto, diciamo vabbè finiamo, perché sennò devono succedere altre cose e via dicendo. Però è stata una gran serie, soprattutto le prime 3 stagioni, e poi è un sci-fi realistico, cioè non ci sono le astronavi che viaggiano, cioè lì è tutto circoscritto al sistema solare, e giustamente secondo la fisica nel momento in cui tu acceleri devi anche decelerare, cosa che nei film fantascienza questa cosa non esiste, e quindi c'è, nel senso, c'è tutto un realismo proprio sul come funzionano le cose, e questo è apprezzato, voglio dire, perché comunque ti fa vedere una fantascienza un po' diversa, dove non è che è tutto così facile e scontato come possa sembrare. Bello dai, comunque la serie, il gioco, giocatelo ragazzi, se vi piace il genere, se vi piace The Expanse, giocatelo. Eh sì, Inspi è un grande fan della serie e infatti ha giocato anche il gioco e dice: anche se alcune animazioni non mi hanno convinto troppo, quindi le animazioni non gli hanno fatto impazzire al buon Inspi. Beh, alcune sì, probabilmente sì, adesso non ce l'ho presenti, però probabilmente può anche essere. Comunque vedi quello che dicevo, infatti questo è distribuito da Telltale, però il gioco l'ha fatto Deck Nine. Che so comunque gli amici di Dot Note, cioè quella fine secondo me è tutto un, capito, cioè oramai hanno unificato, diciamo, un progetto di sviluppo, che secondo me hanno costruito un framework di lavoro e poi se lo passano fra di loro, se lo so magari interscambiato, capito? Perché dai, cioè comunque questo, a parte che tecnicamente è un po' superiore, è uguale a cosa? A Star Trek, quello di prima, insomma, io adesso non mi ricordo. Sì, alla fine sono tutti molto simili, no? Sì, esatto, cioè, poi alla fine le meccaniche sono identiche, quindi è impossibile che siano motori diversi che facciano le stesse identiche cose, insomma. Vabbè, comunque. Comunque c'è da dire che io, non avendo seguito la serie, anche se la conosco perché sia, vabbè, Buon Inspi me ne ha parlato, sia perché comunque è famosa, perché ho un'amica che anche lei è molto fissata, ha letto tutti i libri, hanno anche il gioco da tavola e quindi mi piace molto. E quindi quando Inspi l'ha comprato, abbiamo fatto la condivisione dello schermo, mi sono impicciata un po' all'inizio per vedere com'era, io però non ci ho capito niente perché, non avendo seguito la serie, lui mi doveva dire: ah, questa è quella che fa così, vabbè, là, però là. Cioè de base non c'è stato a capire molto, ma dovuto spiegare tutto il loro universo, questi che abitano in questa navicella, non sono mai andati, cioè che sono terrestri, capito, stanno in questa navicella. E poi boh, beh, mi ricordo comunque tante cose che mi ha dovuto spiegare perché, non avendo seguito mai la serie, non sapevo di che stavano a parlare. Allora adesso forse su questo c'hai ragione, io non ci avevo fatto tanto caso in effetti a questa cosa, però anche se è un prequel, quindi in teoria non ha importanza di non aver visto la serie, però il background narrativo, quindi tutto lo scenario narrativo, in effetti io non mi ci fai fare caso adesso. Sì, capito, per me erano i classici terrestri. Per me era scontato. Sulla navicella, esatto. Girano. Invece lui mi ha detto: no, questi sono sempre vissuti su questa cosa, non sono terrestri, bla bla bla. Capito? Quindi. Sì, sì. Esatto. Ha detto: ah, ok. Ah, vabbè, ciao. Ah, vabbè. Bella. Bella vita, insomma, dentro sta navicella sempre, che palle. Però vabbè, questo fanno mestiere, insomma. Eh sì. Assorfo dice: leggete anche i nuovi romanzi se vi è piaciuta la serie o il gioco. Quindi tu li hai letti i romanzi? No, io ho letto il primo romanzo, che tra l'altro, diciamo la serie se ne va un po', non dico per cazzi suoi, ma insomma, ma anche giustamente, perché secondo me poi alla fine comunque essere speculari o troppo simili alla narrazione originale, secondo me poi alla fine non è un bene, cioè nel senso comunque alla fine mi devi dare qualcosa di diverso. E però insomma sì, boh, comunque ce li ho Lilo, ce l'ho presi tutti e devo metterli tutti a 9. Sì sì, ce l'ho perché sono fan, poi alla fine è un po' come quando è uscito Il Trono delle Spade, che avevamo prodotto i libri e poi diciamo mo li compravo, mo li leggevo, però lì era più Michela che ha fatto sta cosa. Vabbè, stanno lì, quando stanno arriverà il momento. Non so, ma il problema è veramente il tempo, cioè nel senso. Ma anche perché Il Trono delle Spade sono pure bei mattoni, quindi cioè, ci vuole tempo. Insomma, ma pure The Expanse roba. Ma guarda che secondo me sono paragonabili proprio come opere. Non so se addirittura il team di scrittura, insomma, alla fine ci abbia a che fa con Martin, quindi in generale. Alla fine secondo me sono due opere che in qualche maniera simili. Vabbè, comunque io ho detto che sarei stato veloce. Comunque Inspi conferma che questo gioco è fatto per i fan della serie. Vero, vabbè, sì, forse è vero. E Nico dice sono tutti la stessa banda, quindi quelli che stai dicendo te, no? Si sono messi tutti insieme a usare lo stesso motore, insomma, questi che fanno questi tipi di giochi qui, no? Come dicevi te, Dontnod, eccetera. Sì, secondo me sì, ma non nel senso negativo, cioè magari è comunque si sono consorziati in questo modo, in modo che ognuno faccia le proprie storie. Non è un caso che, cioè, Telltale alla fine non sviluppa internamente sto progetto, lo sviluppa Deck Nine, cioè questa è una cosa che comunque, e Deck Nine era comunque, non dico una sussidiaria di quell'altri là, di Dontnod, ma insomma alla fine è tutto, cioè sono loro, insomma, quindi c'è stanzo. E poi Astolfo dice sì, nella serie hanno cambiato tantissime cose, quindi ci conferma che dai libri alla serie ci sono stati tanti cambiamenti. Inspi dice gli scrittori di Expanse erano assistenti di Martin. Ecco, vedi, sì. Abbiamo la conferma. Sì, non lo ricordavo sta cosa. Ma comunque... E Francesco dice io Il Trono di Spade lo lessi quando scrivevo la tesi. Bravo Francesco. Va bene, quindi io vado al mio quarto, che praticamente è stato il mio regalo di compleanno da parte di Gabri, ed è stato un grandissimo regalo di compleanno perché mi ci sono chiusa e mi sono divertita tanto. Hogwarts Legacy, io sono grandissima fan di Harry Potter e soprattutto dei libri, perché come ho detto tante altre volte, i film, i primi due ancora, poi gli altri, se non hai letto il libro va bene, se hai letto il libro bestemmia, soprattutto il sesto, che il sesto libro è il mio preferito, il sesto film è una bestemmia al libro. Quindi nell'insieme i film sono molto carini, gradevoli, però cioè non sono il libro, hanno cambiato tantissime cose, hanno tagliato tantissime cose, hanno sminchiato i caratteri dei personaggi e questo l'abbiamo detto tante volte. Però io sono grandissima fan comunque, io non amo il fantasy, però amo la magia, quindi sono gli unici libri veramente legati al fantasy che ho letto. E c'è da dire che la Rowling, ridendo e scherzando, mi ha fatto avvicinare molto alla lettura. Faccio parte di tutti quei pischelli che si sono avvicinati al mondo della lettura grazie proprio alle avventure di Harry Potter, perché io da piccola facevo fatica a leggere. Leggevo molto poco, tranne Piccole donne crescono, che mi era piaciuto tantissimo. Non ero molto propensa alla lettura. E c'è da dire che poi quando ho iniziato a leggere Harry Potter, da lì mi sono appassionata e questo mi ha fatto avvicinare poi proprio alla lettura. Adesso invece mi piace proprio tanto leggere, quindi c'è da dire che mi ha fatto una magia veramente la Rowling sotto questo punto di vista, insomma mi ha avvicinato di più al mondo della letteratura. E quindi niente, comunque è un libro o è un film, insomma, che ogni tot tempo rileggo, me lo vedo in inglese, mi leggo in inglese, bello, ha inventato un bellissimo mondo. Ho giocato a vari giochi di Harry Potter che di solito non mi hanno fatto abbastanza cagare, insomma niente di che. E invece questo Hogwarts Legacy, bello, un open world dove puoi andare in giro a fare un sacco di cose, quindi bellissimo. Già solo girare per il castello di Hogwarts è fatto proprio bene, cioè proprio bene, nei minimi dettagli. È bello poi andare anche nelle altre parti, insomma, visitabili. Molto semplice, quindi il livello di sfida è molto semplice, senza devi stare a impazzire, senza che stai lì proprio di no, vabbè, ce la faccio, ti incazzi, no, te lo godi, cioè questo veramente te lo godi, anche solo fa una passeggiata, pina scopa, voli, fai in giretto, quindi c'hai un sacco di cose da fare. Io ho scelto Corvo Nero perché mi sento di essere una Corvo Nero, e niente, io questo l'ho... mi è piaciuto tanto, è veramente il gioco di Harry Potter, anche se in verità è un prequel perché è ambientato molto prima dell'esistenza proprio di Harry Potter, e gradevole, è molto carina la storia principale, è bello andare in giro a fare anche tutte le secondarie, è bello prendere anche collezionabili, ma ripeto, anche solo fare una passeggiata, insomma, è appagante perché è fatto nei minimi dettagli, diciamo che se uno è fan della serie si emoziona con tutti i piccoli dettagli che può ritrovare, insomma, ovunque, insomma, non soltanto nella scuola. Quindi molto molto carino, poi impari gli incantesimi, li puoi sfruttare, vai a lezione, c'è tutta la storia principale con il nemico fino al boss finale, quindi carino, poi puoi andare in giro, trovi nei negozi, puoi comprare nuovi cappelli, nuovo vestiario, tante cose da fare onestamente, quindi nella sua semplicità è molto bello visivamente ed è molto gradevole da giocare, quindi per me è stata abbastanza una droga quando l'ho comprato, anzi quando Gabriel me l'ha regalato, e quindi carino, molto molto bello. Gabriel non l'ha finito, si è annoiato un po', non l'ha terminato, invece io l'ho giocato bene, me lo sono girata bene. Tu, Simone, l'hai giocato a Hogwarts Legacy? No. Proprio, no, io Harry Potter non conosco proprio niente. Infatti, l'altro giorno stavamo vedendo con mia moglie un video su YouTube insomma, uno youtuber che va agli studi dell'Universal, ci sono tutta la ricostruzione dei set, le cose, e tutti che impazzivano per sto Harry Potter, hanno detto: senti, adesso me ci devo mettere e mi devo vedere questi film perché. Cioè, non è possibile, sono l'unico scemo tra tutte le persone che conosco e non conosce Harry Potter e non l'apprezza. Non l'apprezzo perché non lo conosco. No, guarda, pure mio padre, ogni volta che l'ho messo si è addormentato, quindi manco lui l'ha mai visto. Perché tu dici: papà, ti faccio vedere un bel film. sì, lui è una certa proprio così. Però guarda, onestamente io ti consiglio i libri. Cioè, se proprio vuoi recuperare, leggi i libri. Oltre che sono scritti così bene che proprio scorrono proprio alla grandissima, proprio brava a scrivere comunque lei. Peccato che è una razzista, però vabbè, tutto sommato. Vabbè, diciamo della sua vita privata poi... Non ce ne frega niente. Da base sticati. Diciamo che se nella sua vita privata è una cogliona, peggio per chi la frequenta. Però diciamo che come scrittrice obiettivamente è brava, quindi molto molto brava. Ok. L'ha saputo fare. Poi è tutto collegato, questa è una cosa che è stata molto brava a fare, a mio avviso, che... diciamo i punti di forza di questa saga in verità secondo me sono alcuni, ossia tutti i collegamenti, cioè dal primo al settimo libro sono tutte cose ultra collegate e tutti i personaggi sono caratterizzati bene, cioè hanno un loro background, quindi cioè non è soltanto il protagonista Harry, Ron, Hermione e punto, ma tutti i personaggi sono importanti, ripeto, non nel film tanti vengono tagliati con l'accetta, addirittura nel film manca un fratello Weasley cioè io non ho capito perché non c'è, vabbè. Mentre nel libro ogni personaggio è dettagliato e soprattutto tutti i personaggi sono umani, quindi tutti i personaggi hanno una parte positiva, una parte negativa, fanno cazzate, sbagliano, si pentono, cioè nel senso non c'è nessuno che è perfetto, sono esseri umani, quindi con i loro errori, i loro sbagli, cioè è molto realistico sotto questo punto di vista, ambientato in un mondo magico, però i personaggi poi in verità sono realistici perché nessuno di loro è perfetto, non c'è l'eroe, dice vabbè l'eroe mitico. No, tutti loro fanno errori, tutti loro sono umani, quindi questa è una cosa molto bella. Tanti di loro fanno tante cazzate che ripagano poi per tutta la vita. Cioè, quindi, cioè nel film Silente sembra perfetto, nel libro capisci che invece no, non è così. Che ha fatto anche lui tante cazzate. Quindi è bello. Allora, leggo un attimo i commenti. A Mattia dice lo sta giocando adesso, sta alle prime 13 ore, poi facci sapere se ti piace. Francesco dice: io non amo la religione ma adoro i miracoli. Potter li ho recuperati a 30 anni suonati. Hogwarts Legacy lo giocherei volentieri se fosse un walking simulator, solo per esplorare l'esplorabile. Comunque sì, guarda Francesco, cioè obiettivamente, cioè, se tu non vuoi proprio poi fare la storia, tu puoi anche veramente solo camminare in giro. C'è sempre un mio amico che lui dice: io ho perso le ore soltanto a camminare in giro. Cioè lui ha giocato molte più ore di me, perché dice: io, cioè, finora della storia, della quest principale, ancora non ho fatto niente, perché sono solo in giro a camminare per vedere tutte le zone. Quindi veramente lo puoi anche fare volendo. Comunque Simone Nicolai dice: benvenuto nel club Simo, quindi non sei l'unico. Quindi Simone a quanto pare non ha mai visto Harry Potter. Simone. Sì, ma poi non è che io sono contento, cioè, nel senso, mi dispiace, perché, cioè, nel senso, alla fine non ci ho mai avuto feeling, diciamo, con questa cosa, e poi alla fine vedo che magari avrei dovuto, no? Quindi sono quelle cose che poi in qualche maniera ti devi riproporre di provare, poi magari non ti piacciono ugualmente, perché non è detto che... Ah beh, certo, cioè, non è che devi piacere per forza, però secondo me devi dargli una chance, perché sì, uno sì. Può pensare che è una cosa bambinesca, ok? Perché obiettivamente il primo è per un pubblico di fanciulli, se tu leggi il libro. Il primo obiettivamente era per un pubblico di fanciulli, perché lei voleva fare una narrativa probabilmente giovanile. Quando poi ha visto che anche gli adulti hanno iniziato a leggerlo, si vede proprio il cambio di tono. Cioè dal terzo libro in poi la questione diventa molto più adulta. Quindi c'è proprio un cambio di tono, perché secondo me ha visto, vabbè, questo libro solo leggono pure i grandi. E obiettivamente ha fan di tutte le età Harry Potter, cioè c'è gente più grande di me che è fan, gente di età mia, gente più piccola, ragazzini di adesso sono fan, quindi continua insomma negli anni a invecchiare bene anche, quindi cosa non facile da fare, quindi lei è stata veramente molto brava sotto questo punto di vista. Astolfo dice: il bello dei romanzi di Harry Potter è che la narrativa cresce insieme ai personaggi. Nei primi libri, vedi quello ho detto io adesso, i primi libri è una narrativa per bambini, ma man mano che si va avanti nella serie la narrazione cambia. Ammazza, l'ho detto adesso. Astolfo, non copiare. Francesco ti dice giustamente che ci sono gli audiolibri letti da Pannofino, che mi hanno consigliato anche Gabriella, i primi due se non sbaglio li ha sentiti, gli audiolibri letti da Pannofino, e mi sembrava sempre che a momenti esclamasse: dai Harry, smarmella sto palazzo. Sarebbe stupendo. Beh, sarebbe figo, sì. Nico dice: recuperato Harry Potter a 34 anni, mi sono divertito molto con i primi due. Sì, sì, assolutamente Nico, guarda, ripeto, se tu vedi solo i film, ripeto, nell'insieme sono molto gradevoli, però mancano tante cose. Cioè il sesso, ripeto, è un peccato, perché oltre ad aver, ripeto, cambiato molte cose, cambiato il carattere dei personaggi, hanno tagliato, non ti dico roba tagliabile, tu dici vabbè sti cazzi, si può pure tagliare, hanno tagliato cose fondamentali che ti spiegano la storia, ti spiegano il retroscena dei personaggi, ti spiegano il perché questi personaggi si sono comportati in questo modo, che è la cosa fondamentale. E quindi soprattutto Silente è un personaggio che nel sesto e settimo libro viene spiegato molto bene, e nel film no, cioè di Silente si capisce soltanto che questo è forte, è bravo, è buono, è figo, fine. E invece no, Silente è un personaggio molto più profondo di così, e ripeto, ha fatto un sacco di cazzate, è un essere umano come tutti, ed è proprio quello il bello, che anche il mago più potente di sempre in verità è una persona come gli altri, che ha fatto un sacco di cazzate. E nel libro è spiegato molto bene, è umano Silente nel libro, nel film no. Il sesto pare un altro film rispetto al libro. Sì, sì, il sesto libro è il mio preferito, ripeto. Il film è una bestemmia. Cioè, hanno tagliato i Gaunt. Io sta cosa che non ci sono i Gaunt, cioè, lasciamo perdere. Vabbè. Comunque, questo è il mio quarto posto. Ve lo consiglio, anche se non siete fan della saga. Ovviamente essendo fan della saga ve lo godete di più, ma non essendo fan della saga comunque è gradevole, è un open world gradevole. Quindi andiamo al podio, la medaglia di bronzo per Simone. Allora, sì, infatti me lo so cancellato. Da posto. Lo dico io se vuoi. No, non lo ricordo, però. Allora, Oxenfree 2, che è ovviamente il seguito del primo, giustamente, e lo è a tutti gli effetti. Allora, ritorniamo un attimo. Questo è veramente un incrocio. Cioè, proprio, tra l'altro, il primo lo farò giocare tra poco anche a mia moglie, perché secondo me merita proprio, cioè, un tipo di storia veramente particolare. Un po' Lost, un po' Stranger Things, un po' tante cose. Ma a me piace soprattutto questo mix che loro hanno fatto. Cioè, prendiamo l'avventura a scorrimento, diciamo semi-platform, soltanto che la rendiamo proprio un'avventura punta e clic, tant'è che non fai salti o cose, devi fare cose sincronizzate, roba del genere, usi solo il mouse praticamente. Però c'è questa dinamicità dei movimenti, delle arrampicate, delle cose. E poi è tutto basato sui dialoghi. Cioè, infatti loro sono stati forse tra i primi fuoriusciti della Telltale che costruirono questa nuova software house e uscirono con questo titolo che inizialmente, cioè il primo Oxenfree, che inizialmente non uscì in italiano, non so se ve lo ricordate, ed essendo un gioco totalmente basato sui dialoghi e sui dialoghi in maniera dinamica, perché comunque parlano molto e parlano in continuazione e parlano velocemente, la presenza della lingua italiana sarebbe stata indispensabile. Infatti Francesco lo sa che forse me lo regalò lui proprio il primo, quando è venuto a sapere che era stata introdotta poi ufficialmente la lingua italiana nel primo. Ed è importante, perché comunque i sottotitoli ti aiutano tantissimo a comprendere, ma soprattutto ti aiutano tantissimo a fare le scelte, perché quello che succede è in continua evoluzione, in continuo divenire. Tu muovi il personaggio, ma soprattutto devi dare risposte ai dialoghi, e le risposte ai dialoghi le dai con questi tre balloon che appaiono praticamente sopra il personaggio, che sono le tre risposte o le tre modalità diverse che tu dai, e a seconda ovviamente del modo in cui tu rispondi la storia si adatta dinamicamente a quello che, più che la storia, all'interazione tra i personaggi, che è una cosa forse più importante, diciamo così. E c'è il mistero, un mistero legato alle frequenze radio, a delle entità, insomma, che fanno cose, insomma, che poi magari ve lo guardate. Però è bello, è proprio bello, proprio perché mi piace, mi è piaciuto proprio questa originalità, perché secondo me poi alla fine quello che ha sempre mancato un po', magari, insomma, io ne ho parlato con tanti di voi, forse anche con te Deb, quello che a un certo punto io ho smesso di tollerare nelle avventure grafiche è questa staticità, che sì, è vero, fa parte del genere, è parte integrante del DNA delle avventure grafiche, però a me questa staticità a un certo punto mi ha cominciato a pesare. E avere invece questo dinamismo nel movimento, nel fatto che le cose succedono, nel fatto che i dialoghi comunque si trasformano in tempo reale, del fatto che io posso interrompere anche una persona che mentre che parla, cioè tutta una serie di situazioni così che a me m'hanno veramente affascinato tanto. E secondo me questo modello funziona, tant'è che poi loro hanno fatto il secondo e più hanno fatto Afterlife, che devo ancora, After Party scusate, che devo ancora finire, che però insomma il modello è sempre quello, soltanto che vabbè, so, After Party è una storia un po' più allucinata, nel senso anche un po' più divertente da un certo punto di vista, anche se poi alla lunga forse c'ha dei difetti, ma poi ne parleremo magari in un altro contesto. E quindi affronti questa avventura, questo mistero, questa situazione particolare che ha i suoi aspetti drammatici in un contesto fatto di relazioni interpersonali fra persone non adolescenti, ma insomma giovani, ecco, insomma tra poco più che teenager, insomma forse sì, 20 anni, 18 anni, ecco, persone così, quindi con tutti i limiti e i problemi magari ognuno si porta dietro, e poi ovviamente il dramma della storia stessa, insomma secondo me è bello proprio. E il 2 è bello uguale, cioè anzi secondo me il fatto che in qualche maniera ti riporta in un certo modo a quella storia alla quale eri tanto affezionato, un po' quel ritorno che in qualche maniera ti fa piacere, tutto sommato non ti delude, perché ci sono delle connessioni, anche se il mistero poi fondamentalmente è più o meno lo stesso, il modo di risolvere determinate cose è più o meno lo stesso, però la storia comunque è basata proprio sulla, sulla narrazione, sui dialoghi, sui personaggi. I personaggi sono tutto in questa storia. Ecco, insomma, io l'ho giocato proprio appena l'ho visto che c'è Zack. No, vabbè, adesso nel 2000, qualche mese fa l'ho visto, c'era l'occasione, me lo so preso e me lo so sparato praticamente in un giorno e mezzo, due giorni, insomma, perché poi comunque tutti i giochi, grazie al cielo, non lunghissimi. Allora, di questo qua, io praticamente il primo ce l'ho un po' ovunque perché l'hanno regalato veramente in qualsiasi parte, sì. Quindi ce l'ho su Epic, ce l'ho su Steam, sì. Ce l'ho su Amazon pure, mi sa. E non ho ancora mai giocato il primo. Allora, io lo volevo portare sul canale, però poi sul Telegram voi me l'avete sconsigliato perché mi avete detto che praticamente questi parlano a 2000. Cioè, nel senso, il problema di questo gioco è che tu non fai neanche in tempo praticamente a leggere, perché hai visto questi balloon, ad esempio, c'erano questi tre, no? E mi avete detto, cioè, non fai in tempo proprio a cioè, neanche a stare dietro. C'era questa problematica, almeno nel primo, da quello che mi avete detto voi, che questi balloon vanno a 2000, questi qua. Ma guarda, e sì. E mi avete sconsigliato appunto di portarlo sul canale per questo motivo, insomma. Sì, non è che sono i balloon che vanno a 2000, sono i dialoghi che vanno a 2000, poi i balloon rimangono per il tempo indispensabile che ti serve per dare una risposta oppure per interagire in qualche maniera. E sì, i dialoghi sono tutti molto veloci, ma è proprio questo stile qui, insomma, no? Che trovi anche in serie televisive come The Bear oppure Una mamma per amica, cioè nel senso è questo parlare a raffica in qualche maniera. I sottotitoli in italiano ti aiutano molto. È chiaro che se tu stai facendo un video su YouTube e vuoi leggere a tutti ad alta voce, secondo me non fai in tempo. Invece fai in tempo stando lì e magari commentando i dialoghi mentre che li vedi, cioè nel senso che è un po' diverso, capito? Cioè nel senso devi dare una, anche tu, un dinamismo diverso al video che stai facendo, se ritieni di farlo. Però a prescindere dal fatto che lo porteranno o porterai sul canale, secondo me è un gioco che devi provare e vedere se secondo te fa per te. Ribadisco, non è, cioè non c'è una complicazione in questo gioco, è tutto seguire la storia e interagire. Cioè alla fine è come Soft of the Circle, soltanto che è più dinamico, diciamo così, mentre che quello è più statico, più monodirezionale. Qui diciamo che le cose possono cambiare anche nell'interazione tra i personaggi. Cioè secondo me comunque va giocato. Sì, infatti mi incuriosisce, comunque sicuramente lo giocherò a questo punto, magari per conto mio, però penso lo giocherò comunque, anche perché ripeto, ce l'ho ovunque, quindi neanche sì. Lo devo stare a sì, tra l'altro, a tra l'altro il secondo è sotto distribuzione Netflix, quindi se siete abbonati a Netflix, su mobile è gratis, quindi su tablet, su... Ah, il secondo è proprio, ci sta nell'abbonamento di Netflix. Sì, se tu sei abbonato a Netflix lo puoi scaricare e giocare gratuitamente. Ah, vedi, non lo sapevo. Cioè, se c'è un telefono Android, un tablet Android, vai uh-huh. Sull'App Store, cerchi il gioco, lo scarichi, te lo fa giocare gratuitamente perché tu magari c'hai l'applicazione Netflix sul telefono e lui te lo fa fazzo. Ottimo, buono a sapersi. Comunque, intanto Francesco è andato a Nin e dice il podio lo recupera in differita. Quindi buonanotte Francesco, grazie di essere stato qui con noi. Cuciniere dice ce l'ho su Android, purtroppo solo in inglese. Ah, questo non lo so. È in italiano il primo? Tutte e due sono. Allora, su Steam sono tutte e due in italiano. Poi non te so dire adesso se la versione Android o mobile sia solo in inglese. Te devo dire, in effetti è una cosa che. Siccome per me non esiste il gioco mobile in generale. Però sì, no, anche io non lo faccio. Ho dato l'informazione perché lo sapevo, ma se no non lo so, insomma, posso controllare adesso in tempo reale, volendo, insomma. Intanto Nico dice non riuscivo a seguire i dialoghi, quindi vedi questa cosa del dialogo che andava velocissimo, mi ricordo, ma l'avevate detto insomma su Telegram, se non sbaglio anche Devil l'aveva detta questa cosa. Astolfo dice sì, confermo, discorsi lunghi spesso non c'entrano nulla con l'avventura e spesso ti perdi, quindi fanno un po' di pippe mentali. Beh, perché alla fine è una teen story, cioè nel senso, cioè, se tu la prendi da questo punto di vista è un po' sì, ragazzini che chiacchierano, poi però in realtà c'entra perché descrive comunque un background, descrive i personaggi, no, in qualche maniera. Poi chiaro che col focus della storia non c'entrano niente, ma in tanti film magari sono dei dialoghi che nel contesto non c'entrano niente e fanno comunque contorno o raccontano il personaggio in qualche modo, anche solo il modo in cui parla, no? Per dirti, quindi ci sta. Ma guardate ragazzi, lo capisco il discorso, io non sono un fulmine di guerra, non sono uno di quelli che legge no, nel senso che non sono uno di quelli che legge i sottotitoli a manetta, però se sono riuscito ad andarci dietro vabbè, è fattibile, secondo me è fattibile, però poi capisco che se fosse stato doppiato in italiano sarebbe stata un'altra storia, certo, questo è ovvio. Intanto invece Mattia dice buonanotte, ma vi seguo dalla TV della stanza da letto, quindi immagino non scriverà ma è con noi. Ok, allora ti metti comodo nel lettino, perché ricorda che sei o sei con noi o sei contro di noi, non esiste la via di mezzo. Non esiste il neutro, insomma. Comunque, ok, andiamo al mio podio, alla mia medaglia di bronzo, altro gioco che mi è stato regalato al compleanno, è stato un ottimo compleanno, mi è stato regalato dal mio inspi, è stato un bellissimo regalo, ho giocato in live con voi poco dopo, insomma, che me l'ha regalato, è stata veramente una bella avventura che vi consiglio di recuperare ragazzi, ossia Loretta. Questo si merita il podio, grande gioco, durato 7 ore e mezza più o meno ci abbiamo giocato. E allora, anche qui la grafica, come possiamo vedere, ricorda molto quella di Cats and the Other Leaves, perché oltre ad essere pixellosa non c'è il dettaglio dei volti, quindi neanche qui non hanno le pupille né altro, ma non ci interessa perché cioè nel senso, nel primo piano in verità c'è il dettaglio, quando stanno così lontani che non hanno pupille né altro, ma non è importante perché l'importanza di questo gioco è la storia ambientata negli anni 40, quindi la classica donna che è stata praticamente abusata mentalmente, non solo dal marito che l'ha rinchiusa praticamente più meno dentro casa, e quindi praticamente ci spiega come viveva questa donna negli anni 40 e come con l'assenza del marito che muore praticamente lei non vale niente per il mondo, perché ad esempio a una certa lei va a chiedere un prestito in banca e le dicono signora deve venire con suo marito, perché a una donna non danno un prestito in banca. Quindi è interessante vedere la storia di questa donna che, ripeto, oltre ad avere abusi psicologici non solo dal marito ma in generale ce l'ha dalla società, quindi è una donna qualsiasi, perché lei è veramente una donna qualsiasi come possono essere state tante di quell'epoca, e quindi viviamo la storia di lei, una storia di tante donne di quell'epoca alla fine, che però a una certa si ribella, cioè si è rotta il cazzo giustamente di essere trattata come una deficiente da tutto e tutti, e quindi si ribella. Anche qui possiamo fare alcune scelte che credo possano poi cambiare il finale, da quello che insomma mi ricordo, adesso è passato un po' da quando ci abbiamo giocato a marzo se non sbaglio, e, però è stato molto interessante, molto coinvolgente emotivamente parlando, ci siamo messi tutti nei panni di Loretta. E quindi questo è un gioco che io consiglio tantissimo, perché non è facile passare quello che hanno passato queste donne, e soprattutto praticamente questo gioco nella sua semplicità riesce proprio a farti entrare nei panni di questa donna, quindi riesci quasi a capire perché le fa determinate cose e perché si è rotta le palle di tutto ciò che la circonda, cioè è condivisibile, capito, quello che lei fa, perché proprio ti coinvolge emotivamente, psicologicamente in quello che vive lei nella sua quotidianità. Quindi grande gioco che assolutamente vi consiglio di recuperare se non l'avete fatto, sempre in inglese se non sbaglio, sì, però sì, solo in inglese, molto fattibile insomma. Infatti era quello che ti avrei chiesto, insomma, il livello dell'inglese. No, era fattibile, abbiamo giocato in live senza problemi, e io questo te lo consiglio, su me a te questo piace tantissimo. Sì, sì, sono, ma infatti sono convinta che questo ti piacerà. Avevo guardato un po' il tuo video, è bello perché comunque la base è reale, cioè, infatti addirittura ormai hanno dovuto mettere un disclaimer, perché ormai purtroppo bisogna mettere disclaimer sottolineando che determinati termini, determinati modi di fare ovviamente sono stati fatti così perché è ambientato nel 1940, certo. Però Diciamo che se uno ragiona un minimo non c'è bisogno di mettere il disclaimer. È normale che se un gioco è ambientato nel 1940 tante donne erano trattate in questo modo, quindi c'è, diciamo, un po' stupido offendersi perché non è ambientato nel 2023, insomma, quindi però vabbè, hanno messo disclaimer così nessuno gli ha rotto le palle. Vabbè, diciamo che sono d'accordo con te, ma secondo me il disclaimer è anche la parte, cioè secondo me è peggio quando cambiano i linguaggi, quando cambiano le impostazioni della narrazione in funzione della sensibilità moderna, piuttosto che mettere un disclaimer che ci può anche stare. No, quello proprio lo abborro. Esatto. Un disclaimer ci può anche stare, cioè, nel senso, secondo me non c'è manco bisogno del disclaimer, cioè, ma noi non ci abbiamo. Nel 1940 è normale che le donne erano trattate così, insomma. Lo so, io sono donna, sono la prima che ci arriva, insomma. Sì, non sì, mi offendo. È vero che però è un ragionamento che facciamo noi, magari i ragazzi più giovani magari non lo sanno, non se ne rendono conto. Tu, ti può sembrare strano, ma ti assicuro che è così, cioè, nel senso. Quindi questo qui pensi di recuperarlo? Assolutamente, era già in Wish quando l'hai giocato, e quando smaltisco due o tre cose che faccio con Michela ce lo spariamo subito. Lo voglio fare con lei perché lei poi è molto attenta proprio a certe determinate tematiche, quindi... Sì, cioè ormai un minimo insomma, sentendo voi su Runtime ho capito che Michela è legata molto alle tematiche femminili, quindi sicuramente questo gioco le darà molta rabbia, ma ha dato rabbia a tutti noi mentre l'abbiamo giocato insieme, insomma. Però secondo me invece è proprio importante, cioè proprio importante parlarne, perché ti fa vedere, insomma, la differenza. Che poi il 1940 non è così lontano, se vogliamo, no. Quindi c'è una differenza abissale, insomma, dal 40 a oggi, quindi direi che è proprio importante invece, secondo me, parlarne, far vedere ai giovani soprattutto quello che c'è stato di differenza, insomma, con l'evoluzione della società in generale. Quindi per quello dico, secondo me pure il disclaimer non c'è bisogno, però vabbè. No, vabbè, questo ti ho detto, nel senso, il disclaimer non fa meno male di fa tante altre cose. Poi diciamo che questo fa il paio con Best Man Ever lì, che secondo me poi alla fine lì addirittura non siamo neanche negli anni 40, forse siamo negli anni 60 se non qualcosa dopo, quindi alla fine vedi che le tematiche più o meno sono sempre quelle, cioè nel senso, uno dice ah vabbè, però erano gli anni 40, però poi erano gli anni 50, poi erano gli 60, poi erano gli 70, e alla fine tante cose non cambiavano, e ancora oggi poi alla fine, perché se vai a vedere, insomma, nell'insieme sicuramente sì, poi però poi ci sono tante situazioni nelle quali purtroppo anche noi siamo testimoni de cose che rimani raccapricciato, che ancora la donna è la donna e l'uomo deve gestire la vita da donna o cose del genere, che insomma... Sì, in tante realtà si è rimasti nel 1940. Appunto. Quindi, però diciamo che in generale, socialmente parlando, fortunatamente, insomma, si è superato... Sì, sì, nell'insieme sì. ...quel livello. Certo. Meno male. Comunque, Loretta mi è piaciuto tanto, non le davo due pippi, e invece, dice Solfo, vedi, ha apprezzato. Cuciniere dice, su smartphone è ingiocabile perché i dialoghi e balloon ci sono anche mentre muovi i personaggi, in pratica copri lo schermo. Sì, è vero. Con le dita. Sì, è vero, questo immagino che sia vero, in effetti. Nico dice, pensavo durasse un'oretta. No, dura 7 ore e mezza. Non minchia! È un'oretta, Loretta. Volevo fare anche una battuta simile, ma non sapevo come farla, ha detto Simone. Va bene, quindi questo assolutamente mia medaglia di bronzo, per non solo perché ho giocato quest'anno, ma proprio perché nel 2023, cioè secondo me si merita medaglia di bronzo nel 2023 questo gioco. Grande, grande gioco, ripeto, volendo attuale in alcune situazioni, se no, ripeto, è importante da condividere, ripeto, con tutti, ma soprattutto magari anche con i giovani, perché ripeto, la storia non va mai dimenticata, anzi. Quindi ottimo gioco. Va bene, andiamo alla medaglia d'argento di Simone. Sì, potevamo di Poretta Loretta. Loretta Laporetta. Laporetta, esatto. Insomma, però vedi. Comunque, mio sì, secondo. Fortunella, c'è da dire. Mio secondo posto è praticamente diciamo, questi giochi sempre come quelli di prima, sempre Planet of Lana, Somerville, però con gli steroidi, diciamo un po', perché è l'estensione di questa tipologia di giochi che nasce ovviamente da Inside in poi, che sono sempre queste adventure platform action, un po' di tutto, e sarebbe Bramble the Mountain King, che ho visto che hai giocato pure tu, se non sbaglio, in live. Sì, in live. Allora ragazzi, avete capito che mi intrippano questi giochi qua, dove poi alla fine in alcuni frangenti le dinamiche sono sempre le stesse, no? Ti nascondi dalla luce, ti nascondi dal nemico, scappi, esegui qualche enigma ambientale per superare magari un determinato punto, in cui poi ci aggiungi anche alcune dinamiche più tipicamente legate al mondo dell'avventura, come l'ultimo King's Quest, non so se qualcuno di voi l'ha mai giocato, insomma, no? Che era in questo ambiente 3D dove tu ti muovevi, dovevi fare cose e via dicendo, e in più ovviamente c'è tutta una parte più legata alle boss fight che negli altri casi magari non ci sta. In questo caso invece poi c'è questo elemento più proprio che lo riporta più nelle avventure action da questo punto di vista. L'ambientazione è legata alle favole nordiche, con quel profondo senso di cupità, di oscurità, di cupezza, di orrore anche per certi versi, perché alcune scene sono inquietanti, perché insomma ci sono dei momenti, sembra molto puccioso a vederlo, invece è inquietante, perché inizia con la fiabetta del ragazzino che deve trovare la sorella, e poi succede tutto, cioè nel senso saluta gli gnomi, esatto, compreso quando tu praticamente devi salvare sti gnomi e cioè, io sono rimasto proprio, ma no, esatto, cioè lì esatto, è così perché non te l'aspetti, cioè nel senso, cazzo, cioè vabbè, mo li porto a casa gli gnomi, cioè nel senso, cazzo, cioè, e rimani come uno stronzo, perché lì poi ti senti responsabile. Sì, cioè, io pure sono rimasta un po' come uno stronzo, esatto, cioè. E poi ci sono anche alcuni boss, cioè sangue, cioè tante cose che arricchiscono praticamente l'oscurità di questo racconto, che appunto è proprio un racconto, cioè nel senso, comunque anche dal punto di vista dell'accompagnamento audio è bellissimo. Allora, secondo me, cioè, ribadisco, alcune dinamiche sono sempre quelle, cioè nel senso, vedi, tu nascondi, scappi dalla luce e ti nascondi dietro i cespugli e via dicendo. L'abbiamo visto pure in Somerville, l'abbiamo visto pure in Planet of Lana, l'abbiamo visto pure in Inside, tutte dinamiche che abbiamo visto e rivisto. In più qua ci sono tutta un'altra serie di sottodinamiche, di situazioni, di personaggi, del modo in cui tu interagisci proprio con l'ambiente, come ti muovi nell'ambiente, che è totalmente diverso, e piano piano più vai avanti più sta storia diventa oscura, cupa, e addirittura c'è proprio uno stacco netto a un certo punto, no? Dove comunque comincia a diventare veramente tutto precipita tutto nel baratro dell'oscurità, insomma. Sì, all'inizio è più coloratino, sì, no? Sì. E piano piano la natura, quanto è bella la natura. Sì, sì, quella classica natura anche un po' fantasy, no? Cioè, no, anche un po' fantasy. Fantasy perché è proprio a tutti gli effetti una fiaba, no? Quindi ti aspetti di vedere il funghetto con l'elfo con i gnomi, appunto, insomma. E poi però sti gnomi cascano come funghi, muoiono in maniera indecente, cioè nel senso, ma poi brutto, però, cioè, mamma mia, brutto proprio. Però diceva brutto, però è un bel gioco, cioè bravi, veramente bravi, perché hanno fatto tipo Little Nightmare 2, soltanto che secondo me con tanto in più, tanto in più, proprio nel modo in cui gli scenari sono più grandi, sei all'esterno, tutta una serie di dico, a me questo gioco mi è veramente piaciuto, cioè che vedevo di guarda, sì, noi l'abbiamo giocato in live, approfittando che anche questo è uscito sul Game Pass, io questo mi ispirava tanto, c'era una lista di desideri, e poi a Day One è uscito il Game Pass, e quindi ho approfittato, insomma, di fare un paio mi sa di live ops, perché il gioco non è molto lungo. E mi è piaciuto tanto anche a me, perché io adoro le fiabe in generale, quindi tutto ciò che ha a che fare con le fiabe tendenzialmente mi piace, e soprattutto poi magari quando sono, ecco, tipo fiabe nordiche che magari conosco un po' di meno, mi piace molto esplorare per conoscere, sai, molti personaggi, molti esseri di queste fiabe, magari di appunto scandinave, che magari io non conosco, e quindi è anche un modo per conoscere un po' la cultura del posto, no? Quindi è sempre interessante scoprire la letteratura, la tradizione, insomma, locale, quindi è molto carina questa cosa. Mi è piaciuto molto sia visivamente, perché comunque, ecco, quei paesaggi che dicevamo all'inizio, con tutta questa vegetazione molto carina, poi anche tutti i tipi di non solo mostri, diciamo, ma anche, vedi, c'era un mega ranocchio, quindi tutti questi esseri che si incontrano pure sono fatti veramente molto bene. La giocabilità pure non stanca, onestamente, mi sono divertita, ci sono alcuni pezzi in cui sono morta più volte, ho dovuto rifare. Vabbè, sì, però nell'insieme non è difficilissimo, anche il boss finale l'ho fatto abbastanza in fretta, quindi come difficoltà non è snervante, diciamo, quindi anche questo ha aiutato. E non te spalla, diciamo che non te spalla. No, non stai lì a dire oddio, non ce la faccio, aiuto. Quindi carina anche questa cosa, quindi obiettivamente è molto gradevole come gioco nell'insieme, è andato bene, insomma, anche qui diamo estremamente positiva, quindi mi fa piacere, insomma, anche questa cosa. Molto molto carino. Sì, io lo considero il mio secondo posto proprio perché secondo me è stato il gioco che quest'anno mi ha sorpreso di più da questo punto di vista, perché mi aveva attirato molto il trailer quando stava per uscire, e devo dire che ci sono tutti quegli elementi delle cose che mi piacciono, e incredibilmente mixate con Sapienza, perché poi alla fine, se vai a vedere, comunque è un insieme dei generi, però che si sono fusi bene, non c'è uno stacco tra una cosa piuttosto che un'altra, tutto molto omogeneo, è tutto molto ben fatto, e comunque anche quelle emozioni che ti lascia e che non mi ha lasciato per esempio Planet of Lana, in questo caso te li lascia anche nel momento più drammatico, no? Più truce, quando tu dici no cazzo, no, cioè ti dispiace che è successa quella cosa, ma è quell'emozione, quella vibrazione, quel brividino che ti fa venire e che te lo ricordi oggi ancora, a mesi di distanza. Io non mi ricordo niente di quello che ho fatto ieri mattina, sto gioco mi è rimasto impresso, e quindi... Sì, io i nomi non dimenticherò mai. Esatto. Esatto, per me ce l'ho sulla coscienza, cioè, per me io ce l'ho sulla coscienza, poi sì. Non è che, nel senso, ho cercato di salvarli il più possibile, però alla fine muoiono, non c'è niente. Che poi sono pure stupidi, maledetti, cioè, nel senso, però ecco, pure quando tu salvi l'ognomino che sotto la casa crollata, adesso manco mi ricordo bene, però cerchi di portare l'ognomino alla sua, diciamo, insomma, alla sua realtà, e quindi te lo porti dietro, cioè sai che da un momento all'altro può succedere qualsiasi cosa, no? Cioè, nel senso, tu ti senti il gioco, quindi la tensione del gioco e l'emozione del gioco e ovviamente l'oscurità del gioco, e più la responsabilità di sto fregno che ti porti dietro, che tu lo sai che è stupido, che farà qualcosa di stupido, perché il senso di colpa a vita, esatto, guarda. E tu ti porterai, io mi porto dietro, morirò con questo senso di colpa di tanti ignomini morti per colpa mia, insomma. Poveri ignomini. Comunque Nico va a dormire e domani finisce di vedere, quindi notte anche a Nico, grazie di essere stato qui con noi. E Simone dice: sono morta un sacco di volte, ho dovuto rifarlo, tipo quando affoga in due dita d'acqua. Esatto, lì mi ha fatto girare abbastanza le palle quando affogava in due dita d'acqua. Comunque sì, titolo che merita, onestamente, concordo. Allora, vediamo la mia medaglia d'argento. La mia medaglia d'argento praticamente è, in verità, una sorta di versione moderna di un titolo che ho fuso quando andavo al liceo. Quando andavo al liceo, tornavo a casa, mi toglievo delle palle i compiti immediatamente dopo pranzo per giocare poi a Counter-Strike. Grandissimo, grandissimo gioco. È uno dei giochi che ho giocato di più in assoluto, penso, nella mia vita. E quest'anno è uscito Counter-Strike 2, ho giocato al Source tantissimo, e ho giocato già tipo, ecco, 66 ore di Counter-Strike 2. In verità me c'ero chiusa, poi è arrivato il gioco che sta al primo posto sia mio che tu, e quindi avevo messo da parte Counter-Strike per più di un mese, e però adesso mi rimetterò a giocare a Counter-Strike. Questo è uno dei pochissimi giochi online multiplayer che io abbia mai giocato. perché io sono molto da single player o comunque multiplayer in locale, diciamo. Non sono grande fan dei giochi multiplayer online, e questo invece è l'unico che veramente mi ci sono chiusa, mi ha dato sempre un sacco di divertimento, di soddisfazione. Tuttora, anche se le mappe alla fine sono quelle, perché io gioco sempre a quelle lì dove vanno salvati gli ostaggi, mi diverto di più, quindi faccio sempre Office e Italy, che sono queste due mappe. E c'è da dire che, anche se è sempre la stessa cosa, perché mappe, alla fine gioco quelle, però mi diverto sempre come la prima volta, cioè troppo troppo divertente. Io gioco sempre come antiterrorista e quindi vado a salvare gli ostaggi e niente, mi diverto tantissimo. È veramente un gioco che ne so, magari ho una mezz'oretta libera e metto a giocare a Counter Strike, oppure che ne so, me rode il culo, gioco a Counter Strike. Capito? Cioè, Counter Strike, perché sia ti svuota la mente, cioè nel senso, quel gioco che non è che devi stare lì a fare enigmi, cose, però da una parte poi uno ti diverte, ti coinvolge, perché comunque devi stare molto attento sia dal punto di vista uditivo, perché devi sentire da che lato stanno arrivando i nemici, i passi, gli spari, eccetera. E poi devi essere molto pronto, perché è tutta una questione di microsecondi, no? Perché se no l'altro ti ammazza. E in più devi ragionare, perché magari tiri la bomba lì, tiri la flash di là, allora passo, quelli stanno di là, passo da qua dietro, allora se faccio piano mi nascondo e vado lì. Quindi alla fine sembra così, insomma, un po' caciarone come gioco. In verità poi si può giocare con la tattica, insomma, quindi poi dà un sacco di soddisfazione, ammazza la gente, onestamente, quando, che ne so, a fine round ti dice che tu hai fatto più uccisioni, no? E ti appare proprio Pixel Deb, ha ammazzato 4 persone, tu ti senti quanto so figa, capito? Cioè, a volte mi giro verso Gabriel e faccio, mamma mia, quanto so gagliarda a Counter Strike, proprio così. Quindi, cioè, ti dà proprio soddisfazione, capito? Oppure, che ne so, quando in extremis riesci a salvare il cittadino, insomma, che è stato rapito, e quindi riesce a fregare l'ultimo terrorista che era rimasto, non ha fatto in tempo, quindi stai lì a godere proprio. Quindi dà grande soddisfazione questo gioco, e è sempre molto molto divertente, insomma. Poi in verità ci sono tantissime mappe. In Counter Strike Source hanno fatto le persone un sacco di mappe, quindi mi divertivo tanto a provare anche mappe differenti. C'erano, che ne so, le mappe dei Simpson, le mappe dei Griffin, le mappe Lego, c'erano inventate le mappe di Super Mario, cioè le mappe di qualsiasi cosa. Quindi oltre a quelle ufficiali ci sono tutte quelle fatte dalle persone. E niente, quindi questo è veramente divertente, cioè io questo è un gioco che adoro tantissimo. Infatti, se non sbaglio, quando abbiamo fatto la top 10, se non erro, avevo messo Counter Strike Source nella mia top 10, se non sbaglio, ma non me lo ricordo benissimo, ma mi sembra che l'avevo messo anche abbastanza in alto, perché comunque è veramente uno dei giochi che ho giocato di più in assoluto. Facevo parte anche di un clan all'epoca. Ero l'unica ragazza in un clan e mi sono divertita tanto, quindi grandi grandi soddisfazioni. Non so, Simone, se tu lo conosci, se è presente, insomma, se hai mai giocato a giochi così online, multiplayer, dove devi stare in un team, ammazzare gli avversari. No, guarda, io l'unico gioco che ho giocato online è stato FIFA qualche anno fa, e mentre che giocavo c'era una ragazzina napoletana che mi insultava la madre, e da quel momento in poi io ho lasciato, ho detto non capisco perché devo subire questo. Allora, il vero problema dei giochi multiplayer è proprio questo, che è pieno di bimbi minchia, e quindi vanno estirpati. C'è da dire che a Counter Strike non so perché gioca solo l'Est Europa. Quindi praticamente se ti insultano è tendente al rosso, e quindi non capisci un cazzo, e quindi dici vabbè sti cazzi. E calcola, il microfono comunque lo disattivo, perché c'è gente, cioè si sentono proprio ragazzini che fanno tipo mentre stai giocando, dico no vabbè non ce la posso fa. Quindi il microfono tendenzialmente lo disattivo, quindi al massimo leggo i commenti, che però tendenzialmente sono in cirillico, e quindi non capisco che stanno dicendo, certo. Poi c'è sta a volte qualche tedesco, a volte qualche francese, però tendenzialmente anche sti cazzi, cioè di base io li ignoro. E poi se ci sta proprio quello che rompe le palle o fa il bimbo minchia, c'è il modo anche di votare per buttarlo fuori, e quindi tendenzialmente la gente butta fuori e rompi palle, quindi anche questa cosa comunque è molto utile. Secondo me c'è un gatto disperato? No, è la spazzatura. Sotto casa sta passare. Madonna. Ci avrebbe bisogno di un po' di olio. Sì, c'è una cosa mostruosa. Pensavo c'era un mostro dentro casa tua. Dico, boh, è calla. E sto con le finestre chiuse. Quando famo la live in estate, praticamente quando c'è la serata a metallo, vi pian colpo perché sentite spum. Cioè, cadricatezza. Vabbè, no, comunque Counter-Strike mai coperto, come dico sempre a Pordenone, insomma, quindi. Però ti giuro, guarda, che io, ripeto, non sono tipa da questi giochi, e invece questo mi ha fatto veramente troppo, troppo divertire tuttora. Cioè, ripeto, ci giocavo al liceo, poi per un bel po' di tempo ho lasciato perdere, poi ogni tanto ci ho rigiocato, e mo quando ho visto quest'anno che usciva il 2, che è gratuito il 2, ho detto no, vabbè, e quindi detto cano, hai dovuto, ma poi pure gratis, capito, cioè, che fai, nuovo pigli, esatto. Per forza, va bene, va bene. Infatti Simone dice Counter Strike ha risposto a tutto. Esatto, se te lo der culo sono andato a pensare, Counter Strike ha risposto a tutto. Va bene, andiamo alla nostra medaglia d'oro, che non è solo la nostra medaglia d'oro, ma del mondo, perché sì, ha vinto tutti i premi come miglior gioco del 2023. Sì, e anche perché sono in lutto, onestamente. Anche perché, come? No, dico anche perché oggettivamente è il gioco più bello che è uscito quest'anno. Sì. Io sono in lutto dal 19 dicembre, quando ho finito il gioco, mi è rimasto impressa la data perché è il compleanno di mio padre, quindi mi ricordo, insomma, il 19 dicembre ho finito il nostro GOTY e sono in lutto da quel giorno. Per quanto io stia giocando ad altro, non riesco a dimenticare. È come quando te lascia il ragazzo, la stessa cosa, cioè non riesco a dimenticarlo. Ci penso tutti i giorni, mi viene da piagne quasi, anche perché sia il buon Inspi che Gabriel che mio cognato ci stanno giocando ancora, beati loro, e quindi invece io sto così con le lacrime che mi manca anche la mia storia d'amore con Will, che è il romanticone del gruppo, è stata una bellissima storia d'amore. e quindi stiamo parlando, signori, del gioco che è entrato di prepotenza nella mia top 10. Quindi è stato buttato fuori Far Cry 3 nella mia top 10, e al quarto posto della mia top 10 di giochi preferiti di sempre è entrato di prepotenza il gioco più bello dell'anno, ossia il meraviglioso, stupendo, fantastico Baldur's Gate 3. Che vogliamo dire di questo gioco? Quanto se ne è parlato di questo gioco? Tantissimo. Allora, noi pure ce ne abbiamo parlato, perché abbiamo fatto una puntata pure sui nostri podcast, quindi parlare del gioco in sé, diciamo, è anche relativo, nel senso che, cioè, non è che la gente non sa che cos'è Baldur's Gate 3, se non lo sapete avete dei problemi, cioè, nel senso, c'è qualcosa che non va in voi e fatemi una ragione. Diciamo che quello che possiamo dire invece è quello che è stato per noi, no? Perché tu hai detto adesso io in lutto perché pronto, sì, papà, buon compleanno, si è lasciato il mio ragazzo, ma immagino proprio la scena, dice pronto papà, buon compleanno, però io sono in lutto. Allora durante il compleanno di mio padre, siccome l'avevo appena finito, avevo comunque una sorta di felicità nel cuore, perché alla fine a me è finito bene, quindi sono stata contenta, insomma, del finale positivo, insomma, mi ha dato soddisfazione. Il problema sono stati i giorni dopo. Ho iniziato a sentire la mancanza, capisci? Infatti è di questo che vorrei parlare, perché in realtà giochi come questo può sembrare una stupidaggine, ma ti danno una soddisfazione importante proprio per le ore di gioco. Poi se ci aggiunge anche la qualità nelle ore del gioco, perché poi veramente dice, ma hai giocato tante ore, ma il gioco era così, vabbè, forse non le giocavi neanche tante ore, no? E a me questo mi è successo a suo tempo con Fallout 3, no? Perché è, cioè, nel senso, lì per lì è una liberazione, per me, per come vivo io queste cose, lì per lì è una liberazione, perché sono uscito da una cosa dalla quale non riesco più a uscire, proprio, e purtroppo è un mio limite questo, no? Dall'altra poi dopo c'è il vuoto, nel senso, cioè ti aveva talmente riempito, eri talmente pieno di quel background, di quell'ambiente, di quella situazione, no? Poi premesso, tu lo sai, cioè io il gioco non l'ho finito, Baldur's Gate 3, ma ho comunque, e questo mi fa piacere, perché poi infatti è la domanda che te volevo fare, ho giocato i due divinity precedenti, quindi cioè nel senso io sapevo già cosa mi aspettavo da questo gioco, più avendo giocato anche l'early access, insomma diciamo che sapevo cosa andavo incontro e sapevo che per me sarebbe stato un trip importante. Però se tu, quella che magari quando pensavi ai Baldur's Gate precedenti, perché qui ovviamente c'è un salto importante proprio sul tipo di gioco, sul tipo di meccaniche, cioè quando pensavi ai Baldur's Gate precedenti dicevi insomma non so se lo giocherò mai, no? Poi hai magari, ecco, cosa che ti ha fatto decidere verso il giocarlo e rimanere poi catturata, perché poi alla fine, come hai detto te, ti sei fatta sto centinaio di ore. 107 ore. Scrivi? Sono state 107 ore meravigliose, dalla prima all'ultima. È stato un mese abbondante, insomma, di gioia. Che poi tra l'altro io sono rimasto sorpreso, perché io non lo sapevo che tu stavi giocando a Baldur's Gate. Ma a un certo punto ho letto, ho finito Baldur's Gate, bla bla, ho detto ma ho finito Baldur's Gate, non ci ha giocato, scusa. Sì, allora calcola, praticamente la questione è andata così: io con il buon Inspi sul suo canale ormai 2-3 anni fa abbiamo iniziato il primo Baldur's Gate, e per i miei gusti è troppo difficile, cioè nel senso noi morivamo male con niente, nel senso cioè, trovavamo 2-3 ragni dentro una casetta, ci facevano il bucio di culo, ma proprio il bucio di culo, e quindi per i miei gusti troppo difficile, perché io, come sapete, ho poca pazienza, no? Ovviamente la giocabilità, essendo un gioco vecchio, non può essere paragonata a quella di The Baldur's Gate 3, perché cioè la base rimane quella, però moderna, cioè nel senso molto più fattibile, ma poi la storia come è raccontata e tutto quanto, ovviamente c'erano dei limiti dell'epoca, insomma è capibile. Non è che era brutto il primo Baldur's Gate, però per me un po' legnoso, un po' complicato, diciamo non faceva proprio per me. Quindi vabbè, se era uscito Baldur's Gate 3, insomma avevo visto che era uscito, sembrava bello, perché graficamente comunque è bello, non gli si può di niente. E poi il buon Inspi lo compra, e siccome io ho la condivisione familiare con lui, mo sono ritrovata, insomma dico vabbè, dico oh, che cazzo, ci stanno a giocare tutti stanno a dire che bello. A sto punto ce l'ho gratis, lo provo. Ci provo. E Galeotto fu, perché insomma poi invece sono chiusa, cioè nel senso mi sono innamorata per tanti motivi, diciamo i motivi principali, al di fuori della storia che è bella, al di fuori di 700 milioni di quest secondarie che sono fatte bene, sono le quest del cavolo, vai lì e portami quello e basta, che tanti giochi hanno queste missioncine del cazzo, portami 5 ceppi, cioè così, no? Sono missioni fatte bene. Ma poi è bello l'esplorazione, perché c'è un sacco di posti da esplorare, e poi quando pensi di aver esplorato tutto, però scopri che poi c'è un passaggio segreto, questo passaggio segreto ti porta sotto una caverna grande, che ne so, 700 metri quadri, quindi c'è ancora un sacco da esplorare, non lo pensavi, quindi c'è un sacco di cose da fare. Poi ti innamori dei personaggi, perché sono caratterizzati benissimo tutto il party, insomma sono tutti bei personaggi. Cuore Scuro mi sta un po' sul cazzo onestamente, però diciamo al di fuori di Cuore Scuro, che faccia fatta la risata, insomma diciamo tutti gli altri mi sono piaciuti molto come personaggi. Il mio preferito in assoluto è Astarion, ma perché l'attore che ha recitato la parte di Astarion, che ha vinto 700 milioni di premi e se li merita, per me è un mito. Cioè calcola, io mo nel cellulare c'ho come sfondo del cellulare l'immagine questa tipica che vediamo anche qua con tutti loro, anche se non ho mai capito perché non c'è Karlach, poverina, nell'immagine tipica, e quando sblocco il cellulare c'ho Astarion proprio, quindi sono abbastanza fissata. E l'attore io adoro come parla, cioè darling, io ormai faccio solo darling, cioè, ormai lo faccio proprio de mio così, e spesso vedo lui che gioca a Baldur's Gate, perché loro sono tutti abbastanza nerd, tutti loro, lui gioca a Baldur's Gate, fa le live, io ho visto qualche pezzetto, dove gioca a Baldur's Gate insieme all'attore che fa Gale, o all'attore che fa Will a volte, c'è stato anche Garlock una volta, e tra di loro giocano anche a Dungeons and Dragons, quindi è divertente anche vederli giocare a Dungeons and Dragons, quindi sono tutti molto simpatici gli attori, oltre ad essere molto bravi, quindi hanno recitato benissimo, perché è proprio recitato, non è doppiato, è proprio recitato benissimo. E tutti loro hanno una loro storia importante alle spalle, forse le meno caratterizzate sono quelle di Gale e di Carla, che mi è un po' dispiaciuto, perché quelle degli altri invece sono più profonde, cioè più cose da fare, insomma quella di Lysel è la più importante alla fine, però anche quella di Will insomma è stata molto importante, sono stata contenta perché Will, l'amore mio. E il mio quartetto è stato sempre, tranne in alcuni casi che ho dovuto cambiarli, però sono andata sempre in giro con il mio bardo, perché io ho scelto bardo mezzelfo e sono contentissima di aver scelto il bardo, mi sono trovata molto bene onestamente, e Astarion, Will e Carlack è stato il mio quartetto sempre praticamente, quindi sono stata soddisfatta anche di questa scelta. E poi che dire, insomma, l'altra cosa che a me piace da morire di questo gioco è la colonna sonora. Cioè io tutti i giorni, più di una volta al giorno, sento e canto una canzone specifica, che però non dico perché potrebbe essere spoiler, quindi non la dico. Infatti anche quando sto con mio cognato devo fare attenzione a non cantarla, perché lui capisce l'inglese, quindi potrebbe arrivare a capire che quello che sto dicendo, quindi potrebbe essere un grande spoiler, che poi è la canzone della bambina che muore, no? Ovviamente è quello. E quindi io praticamente un gioco così bello era dalla vita che non credo lo giocavo, cioè nel senso, per quanto io forse The Witcher 3 è stato l'ultimo gioco che mi è piaciuto così tanto, e quindi è stato veramente una piacevole sorpresa, non essendo poi un genere che a me fa impazzire, siccome dicevo sto in lutto perché mi manca troppo, continuano a passare giorni ma mi manca troppo, mi sono buttata su un altro gioco dei Larian Studios, ossia Divinity, sì. Enhanced Edition, che obiettivamente è Baldur's Gate, cioè mi rendo conto che aspetta, attenzione, non è che è obiettivamente Baldur's Gate, è Baldur's Gate che è Divinity, sì, cioè perché vabbè, nel senso, io avendo giocato Baldur's Gate, esatto, di certo. Divinity è Baldur's Gate, cioè nel senso, manca la questione dadi perché non c'è la questione dadi, e ovviamente essendo un gioco di più di 10 anni c'ha dei limiti ovviamente che non può avere un Baldur's Gate, però la ciccia è quella. Infatti è bello perché mentre gioco dico ah pure qua si può fare sta cosa, ah ma pure qua si può fare sta cosa, questa pure della c'è sta, ma pure questo pure... quindi è divertente perché comunque nella mia fase lutto ho trovato insomma una cosa simile, che ovviamente non mi sta coinvolgendo così tanto perché ci gioco un'oretta poi spengo, mentre con questo ci ho giocato anche un pomeriggio intero e certo, volevo continuare, capito? Quindi certo, non è certo la stessa cosa. No, lo so, capisco perfettamente, però almeno sono riuscito a trovare diciamo un'alternativa abbastanza soddisfacente, ecco. Guarda, io dico certo, ho fatto la domanda perché in realtà ho visto i video che hai fatto con Ispi su Baldur's Gate, sul primo, ma in realtà Baldur's Gate era un gioco totalmente diverso da quello che ha fatto Larian, e se vogliamo prendere un erede di Baldur's Gate, così com'è quel tipo di gameplay, è Pillars of Eternity, no? Quindi con quel combattimento in tempo reale, con la pausa tattica per fare cose, cioè, quindi è più complicato come tipo di gioco, indiscutibilmente. Larian con i due Divinity, quindi col primo e col secondo, hanno praticamente messo le basi per fare un cambio di rotta su The Baldur's Gate, perché hanno preso Baldur's Gate, le regole di D&D l'hanno portate all'ennesima potenza, i dadi hanno veramente, non è tanto quello che vediamo, è tutto le regole in background che noi non vediamo, che rendono sto gioco veramente incredibile, e più l'hanno ovviamente messo con quel tipo di universo che sono grado di costruire loro, e in più ci hanno messo ovviamente questa cosa del combattimento tattico a turni, che è tipico dell'Arian, che secondo me è l'elemento in più, perché permette di accedere al mondo di Baldur's Gate anche a persone che magari quell'altro tipo di modello non lo digerivano, non gli piaceva, che ci sta benissimo poi. Quindi per me è stato, quando ho saputo che era Larian che faceva il terzo capitolo di Baldur's Gate, per me era l'epifania praticamente, cioè una cosa incredibile, ero strafelice. Infatti secondo me il gioco è più giocabile, anche se è comunque complicato, cioè nel senso non è che è una stronzata a giocare, cioè, insomma, però devo dire che questo tipo di combattimenti in questa maniera a me piace tantissimo. E poi la cosa che in Larian troverai sempre, lo troverai sul Divinity 1 e 2, la cosa dell'esplorazione che hai detto anche te, cioè nel senso, anche non seguendo necessariamente la rotta che devi fare per la quest, io mi sono sempre fatto costa a costa tutta quanta l'esplorazione, andando a trovare anche buchi che magari poi avrei trovato dopo facendo il passaggio giusto, e quindi passando dalla parte del dietro, cose incredibili, così come mi è successo su Baldur's Gate, dove sono andato ovviamente nella tomba dove c'era il tizio scheletrico, che sono passato dalla parte sbagliata, e infatti è stato difficile riuscire poi a passare, perché in realtà lì ci sarei dovuto arrivare dopo, però vabbè, fa parte anche quello del gioco, cioè l'esplorazione è tutto. E poi, come dici te, comunque la qualità artistica e grafica che rispetto ai Divinity è 10 volte più amplificata, i personaggi che sono bellissimi in generale, comunque sono bellissimi anche visivamente. Io per esempio mi sono fatto io di solito gioco con Ranger, quindi col boscaiolo, quello che va quello da forestale praticamente, l'elfo femmina, e mi sono trovato bene anche, ma tutti gli altri personaggi del party principale sono bellissimi, sono belli vestiti, sono belli le espressioni, sono belli i visi, ci sono le cinematiche che negli altri giochi dell'Ariana non c'è stato. E poi è Baldur's Gate, cioè poi dopo alla fine, se tu conosci un po' l'universo, più vai avanti e più riconosci che è Baldur's Gate, quindi è come se essere tornato a casa dopo 20 anni, cioè è un po' così, insomma. Quindi non poteva non essere un capolavoro sto gioco. Se fosse stata una merda, penso che gli avrebbero bruciato casa a tutti quanti, insomma. Tutti in Belgio. sì, no, non finiva bene per loro. Comunque un'altra cosa secondo me fondamentale è che durante tutto il gioco a volte sei messo davanti a delle scelte che tu se li fai, oh cazzo, e mo che faccio? Cioè, nel senso, mi è capitato più volte durante il gioco, quindi non soltanto verso la fine, che ci sono delle scelte che devi scegliere o bianco o nero, cioè non è che puoi scegliere grigio, e tu dici, allora, siccome io voglio fare il finale positivo, mo va capito, ho scelto bene, capisci? Cioè ne stai lì e pensi, ok, dovrebbe essere questo, però poi se non è questo e se sto a fare la cazzata, salva sempre, non me ne accorgo adesso e me ne accorgo solo alla fine che ho fatto la cazzata, cioè capisci? Anche questo è bello, perché a seconda di alcune scelte obiettivamente cambia poi non soltanto il finale ma determinate cose durante la storia, e queste scelte che tu fai incidono veramente sul seguito. Cioè, nel senso, io ero fidanzata con Will, che è il romantico e il bonaccione del gruppo, era veramente quello lì più puro del gruppo, ok, Will, con gli ideali, no? Se io facevo qualcosa di negativo, cioè Will mi mandava a cagare. Sì, sì. Quindi io, a seconda di con chi decidevo di fare anche la romance, con quale personaggio avevo nel party in quel momento, dovevo pure decidere, insomma, cioè nel senso, se io avessi voluto fare un finale negativo non avrei mai potuto fare una romance con Will, perché una certa mi avrebbe proprio mandato a cagare, cioè mi lasciava dal party, cioè mi diceva proprio io me ne vado, capisci? Anche questo, pensa all'importanza che ci può essere in una cosa simile, che a seconda delle scelte che io faccio durante determinate cose, addirittura dei personaggi possono dirmi, cioè ciao, me ne vado. Sì, sì, questo attaccarmi, addirittura mi possono anche attaccare. Se gli faccio lo del culo, mi attaccano pure, cioè si rivoltano contro di me. Quindi questa è una grande cosa. E poi ripeto, scelte che influiscono sul finale, non solo. Quindi starò a fare cazzata. Io verso la fine, nell'ultima quest, c'era una scelta fondamentale. Sono stata 2 giorni a pensare che cosa fare. Stavo pure a fare cazzata. Ma tu lo sai che devi fare lì? Tu salvi e scrivi, qui sto per fare una cazzata. Esatto, poi cioè, in caso ricarichi da lì. Guarda che mi sa che si può salvare anche sui dialoghi. Sì. La cosa facile di questo gioco è che puoi salvare addirittura durante i combattimenti. Quello mi è sembrato eccessivamente facile. Sì, di solito non si dovrebbe fare, oppure no. E infatti si può questa cosa che si può salvare durante un combattimento mi ha fatto un po' storcere il naso, perché aiuti veramente tanto. Ad esempio, io c'è stato un boss, anzi un paio, due ne ho trovati difficili. Uno l'ho trovato veramente impossibile, che quando l'ho visto ho fatto sì, va bella all'ero. Infatti è il boss che ho fatto più volte per riuscire a farlo, veramente impossibile confronto al resto del gioco. E un altro è stato difficile, e onestamente se non avessi potuto salvare quando ero vicina alla vittoria, ma non ero sicura che vincevo perché mi poteva ammazzare nel mentre, cioè capisci che questo mi ha dato anche più tranquillità, perché dico vabbè, se mo m'ammazza ricarico da qui, magari se cambio sti ultimi due tre colpi o mi va a culo riesco ad ammazzarlo. Quindi questa cosa che si poteva salvare durante il combattimento secondo me l'ha reso più facile. Sì, ho capito. Non so, non ci ho mai fatto caso, perché non mi è mai venuto in mente di salvare durante il combattimento. Cioè, dando per scontato che non si poteva fare, non l'ho mai fatto. Io pure dopo. Invece mi sono accorto. Poteva, poi nel momento in cui mi serviva, ho visto se poteva fare. No, invece mi sono accorto sui dialoghi e l'ho considerato un bug. Ho detto, boh, prima o poi lo correggeranno. No, si può salvare sempre. Infatti, questa cosa è un po'. Secondo me, forse l'unica cosa che ti dico non è che. Ma abbassa il livello del no infatti alla fine sti cazzi voto, però ti dico che forse non avrei messo la possibilità di salvare durante il combattimento, onestamente. Bene, e beh, comunque tutti buoni, tutti zitti, ha vinto a mani basse. Sì, giustamente. Comunque è anche giusto così. Comunque diciamo anche che se non avesse vinto Baldur's Gate era perché un altro gioco era raccomandato. c'era ormai è tutto un magna magna. No, esatto. Comunque poi è un gioco colossale, se ci pensiamo dietro è un gioco immenso, perché non è solo quanto dura e quanta narrazione c'è dietro, ma è tutto quello che non vedi, quindi tutti i strati sotto, anche a livello di sviluppo, cioè è un gioco colossale questo, per una software house come l'Arian che viene diciamo dall'ambito indie, è quasi, non dico un tripla A, ma insomma il livello di produzione qui è veramente alto, e hanno fatto un lavoro mostruoso che è bello da tutti i punti di vista. Poi dici sì, qualche difetto sicuramente ce l'avrà, tipo mi ricordo insomma con Alawin, insomma durante le live che faceva nella parte ancora in early access, se tu c'hai un nemico di fronte a te che gli sono rimasti 10 punti vita, gli tiri 10 zucchine e l'ammazzi, cioè nel senso è una stronzata, cioè nel senso chiaramente, però è il fatto che tu possa lanciare delle zucchine è una cosa che rende il gioco vasto nella sua. Sì, puoi fare veramente di tutto. È proprio un gioco di ruolo, cioè incredibile. Sì, che, sì. Cioè, su un PC sono riusciti a fare una cosa che una volta era impensabile, no? Cioè, come puoi prevedere talmente tante possibilità nella fantasia del giocatore e tu questo gioco te la fa fare? Insomma, dai, su. Ad esempio, no, io ero bardo, quindi volendo io potevo mettermi in qualsiasi posto a suonare lo strumento. E la gente da tutte le parti veniva a farmi gli applausi, a fare ancora, capito? Cioè, per dire, qualsiasi posto in cui io stavo, se mi mettevo a suonare, tutte le persone che c'erano lì si avvicinavano. Ma capito? Anche questo è un piccolo dettaglio, che però è una figata. Come no? Scherzi, ma ti davano i soldi? No, per cazzo. Sti stronzi, scusa. Bravi ancora, bis. Beh, scusa. Appena finivo di suonare, sannavano una monetina. Tacci vostri. Tacci vostri. Vabbè. Baldur's Gate c'hanno le braccine corte. Sì. Infatti Astolfo dice anche nei primi due Baldur's Gate potevi essere abbandonato da un membro del party se facevi qualcosa di sbagliato o altro. Vedi, questa è una cosa che hanno mantenuto. Quindi. Sì, no, diciamo che tutti i giochi a base di D&D ce l'hanno sta cosa. Cioè, addirittura pure su Dragon Age sta cosa, che se tu comunque disallineavi talmente tanto il rapporto con un personaggio, lui perdeva fiducia, se ne andava o si incazzava. Cioè, questo fa parte. Chiaramente in Baldur's Gate, secondo me, in Baldur's Gate 3 questa cosa l'hanno raffinata in una maniera incredibile, questo sicuro, però non è che è una cosa che non esisteva prima, però ecco, insomma, diciamo, bello, bravi, e tra l'altro ci fu una grande battaglia, perché loro inizialmente non lo volevano pubblicare in italiano sto gioco, perché per loro era una spesa spropositata rispetto a quello che, cioè, c'era la prospettiva di vendere in Italia. L'early access, secondo me, da questo punto di vista li ha aiutati, perché in realtà ci sono stata una risposta molto più importante di quella che si aspettavano, e alla fine è uscito fuori anche l'italiano, insomma. Meno male, per una volta abbiamo giocato. Beh sì, anche perché 100 e passa ore in inglese penso che non... no, perché io giocai l'early access in inglese e ti devo dire, un po' a due palle, cioè. Però ti posso dire che il fatto che Shadow Heart l'abbiano tradotta a cuore scuro mi ha fatto sempre girare le palle. Sì, però questo è tipico del fantasy, delle traduzioni fantasy, perché tipo no, ah, perché io quel posto lì Black Rock, come fai a tradurlo, è Black Rock, ma guardate che c'è, cioè, anche in Italia c'è roccia nera o no, ma il problema è che Shadow è ombra, chiamala cuore d'ombra, perché cuore scuro è lì che mi ha dato fastidio, perché Shadow è sì, però ci, cioè, può, nel senso, non è che non me la devi chiamare tradotta, va bene, però chiamala cuore scuro, cioè, scusa, cuore d'ombra, no, cuore scuro, questa cosa mi ha fatto girare i coglioni. Però nell'adattamento ci può anche stare, cioè non è così sbagliato, cioè nel senso è letteralmente più corretto come dici tu, però nel dargli anche un linguaggio un po' più aulico, cioè nel senso funziona più cuore scuro che cuore d'ombra, capito? Cioè nel senso, forse per certi modi. Poi tu dici, vabbè, ma ha fatto un sorriso, ma se si faceva il sorriso non era cuore scuro, insomma. Sì, no, comunque c'è, tra tutti loro il personaggio mi è piaciuto di meno, lo sottolineo ancora, insomma. Sì, no, no, a me, per me sono tutti figli e core, capito? Tutti pezzi e core. Tutti pezzi e core. Tutti pezzi e core. Non so scegliere, però insomma sì, sicuramente è quella più gatta morta, ecco, da questo punto di vista, insomma. Beh, diciamo sempre con la mia delicatezza, è un po' un palo in culo, insomma. Un palo in culo, vabbè, anche perché è quella con la maggiore morale, poi a un certo punto di vista, però la sua storia, le sue motivazioni sono fighe, cioè, capito? Quindi... Diciamo i miei preferiti sono, vabbè, Astarion in primis, Karlach, che mi è stata troppo simpatica, e poi Will, perché Will ci crede, una cifra, romanticone, tutto qua. Va bene, dai, grande gioco, se non avete giocato... Recuperate, signori, esatto, recuperate. Sappiamo. Non ve ne pentirete, passerete centinaia di ore gioendo. Se ce l'avete... E poi piangendo. E poi piangendo. Quando avete finito, piangendo. Esatto. Esatto, io ho sempre la mia busta dei tappi dentro al cassetto, quindi ricordatevi questo, è questo quello che succederà poi. Va bene, vi ringraziamo, insomma, si è fatta una certa, mandiamo Simone e tutti voi a Ninna, vi ringraziamo di essere stati qui con noi con la nostra top 10 dei giochi giocati nel 2023, mi raccomando, giocate tanto anche nel 2024, signori. E niente, quindi vive i bei giochi, 2023 comunque è stato un anno pieno di bei giochi, di non soltanto AAA, insomma anche indipendenti, quindi è stato veramente un bell'anno, quindi speriamo anche un bel 2024, insomma. Beh, pare che il 2024 sarà un anno importante, da questo punto di vista, quindi forse beh, poi vediamo, dai, magari ne parliamo pure dei giochi del 2024. Va bene, io ringrazio tanto Simone di essere stato qui con me fino a quest'ora. Mi raccomando, ragazzi, sempre tutti su Runtime Radio, mi raccomando. E niente, vi auguro una buona notte e ci si becca alla prossima. Bella. Bye bye. Grazie per averci seguito. Per stasera è tutto. Ludico Forum vi augura buonanotte. Bene, concludiamo così le due parti di questa top 10 dei nostri migliori giochi del 2023, quindi miei, di Simone e di Deborah, con questa versione podcast della live andata in onda sul canale Pixel Deb. Quindi andate su YouTube, cercate il canale Pixel Deb, iscrivetevi, attivate la campanella, guardate i video, condivideteli, mettete like e soprattutto commentate, date un supporto a Deborah per far crescere il suo canale. Ci vediamo alla prossima occasione. Ciao!